gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Te l'avevo detto, se entro venerdì non mi chiami, te la faccio pagare. Non mi hai chiamato, io lo sapevo già. Ma quello te lo prendi nel culo te, perché c'è cosa c'è di bello. Sai che c'è, Cruciani? Che io non ci perdo niente. L'odio ce la perdi tu. E così dopo voglio vedere se ti danno ancora 600.000 euro all'anno a Radio 24 per fare un programma che continua a calare di audience. Hai capito, coglione? E allora siccome vuoi fare il coglione con me, tu il coglione con me non lo fai, hai capito? Perché a me di te, Cruciani, non me ne sbatto un cazzo, hai capito? Che a me per me non conti meno con la mia scureggia. Scoccherei? Perché io te non ti ho sposato, non sei mio fratello, non sei mio padre, non sei mio figlio, non sei nessuno. E quindi ti mando a fare in culo. C'è tensione, tradimento. Laurone! Da Mantova, cazzo, chiama in radio che c'è bisogno della tua voce, c'è bisogno di sentire, non fare quello che è duro, no, ma me non mi sente più, ma me non mi sente più, hai capito? Lo sai perché? Sai perché? Ecco, dai, noi vogliamo sentire questa roba qua, devi chiamare più matti in diretta, ti prego, chiama, noi vogliamo i matti in diretta. Se io non sento Mauro da Mantova, domani mi straccio le vesti e vado in giro per il Piazza Duomo nudo col bigolo fuori. Maurone, devi chiamare. Sai perché? Perché lo vogliamo noi, minchione, chiama. Sai perché? Giuseppe, ciao. Qui, caro Davide, caro Davide, se come noi andiamo? Matti, noi voemo, se noi siamo matti, noi voemo. Ragazzi, amici miei, lo sapete che mi è successo negli ultimi minuti con la signora Asia Argento. Io te lo dico, la signora, io sto con Asia. No, no, ragazzi, basta. Hashtag, cioè, la maggioranza silenziosa sta con Asia Argento. Io sono sicuro che gran parte della maggioranza silenziosa, possiamo dire la maggioranza della maggioranza silenziosa, scusate il gioco di parole, invece è con il sottoscritto, è con Giuseppe Cruciani, il quale ha semplicemente ricordato in un tweet alla signora, sapete che cos'è il tweet, no? Quella roba che si chiama Twitter, sui social network, diciamo. Non è mica detto che la gente debba conoscere per forza, no? Comunque ho semplicemente ricordato cosa disse alla signora Giorgia Meloni, sì, che era reduce da un parto. Beh, scrisse una cosa in inglese, sì, e fotografò la Meloni che aveva appena partorito e scrisse: questa è la schiena di una lardosa fascista. Di una lardosa fascista. Questo scrisse la signora Asia Argento, che non mi pare un complimento al genere femminile. Non c'entra con la violenza che ha subito. No, non c'entra, però certo non era, non è la dimostrazione, no, di una no, dell'essere paladina dei diritti, no, delle brutta, donne. È una brutta espressione, sia lardosa che fascista, ovviamente. Sono due brutte parole. Io quindi ho ricordato alla signora Asia Argento questo. Mi dispiace per la Meloni. Sai che cosa, come mi ha risposto? Mi ha cancellato dai suoi contatti fatto Twitter. Benissimo. E chi se ne frega, giusto, naturalmente. Giusto. Chi ti se ne frega? Bannato. Anzi, mi ha bannato. E ne sono anche orgoglioso. Ottimo se che vuoi, ti abbia, no, bannato. Ottimo. Mi ha bannato e poi mi ha detto: zitto fascio. Non è male. Zitto fascio. È condivisibile. È una battaglia condivisibile. Zitto fascio. Cioè, zitto fascio. Se non, sì, sei d'accordo con me, sei, no, fascista. Ma qui stiamo parlando di un'altra e cosa. Devi stare zitto. Qui stiamo parlando di una violenza, no, un caso che personale. Asia Argento ha subito. No, ma non... E tu sei stato minimizzatore. Tra i minimizzatori, tra di i minimizzatori, questa cosa, tu assieme ai tuoi amici di quel giornale che nell'attestata ha questo nome. libero, libero di dire minchiate, perché anche in questo caso il signor Renato Farina ha vergato, lo ricorderemo, un articolo pessimo contro Asia Argento in cui sostanzialmente sostiene che l'ha data via così volentieri e dunque non deve piagnucolare, e quindi non deve piagnucolare. Una cosa vergognosa. Ma che vergognosa. Opinioni. Inaudita. Inaudita. Chiudi la corte. Chiudi. Ragazzi, chiudi. Abbiamo il pezzo. Chiudi la Claire. Fammi sentire. Sarebbe bello sentire il rumore della Claire. Ah, sì, bello, sì, la serrata. Il rumore si chiude, si abbassa. Si abbassa la Claire. Anche perché stasera, sì, musica di Porta a Porta, per cortesia, lo annunciamo. A che ora è? A che ora va in non onda? Non so se è stasera o domani. Buonasera al pubblico di Porta a Porta. Questa sera nel salotto di Bruno F, dopo il telegiornale della sera. Ma che cazzo dici sempre dopo il telegiornale della sera? Ci porremo questa domanda: perché il sole tramonta sempre? E come mai le stagioni non sono più quelle di una volta? Ragioneremo con i nostri ospiti con pacatezza e tranquillità, come sempre. Benvenuti a Porta Rai 1. Anche le domande più, come dire, banali lì assumono però autorevolezza. Sai, no, che non è vero? No, sai che non è vero quello che dici tu, che è tutto vero anestetizzato. Per esempio, ti faccio ascoltare. Adesso, come mai lo difendi? Forse perché questa sera sei ospite in quel salotto? Quanti cazzi hai detto in quella trasmissione? Nessuno. E tra l'altro, chi ti ha pagato il viaggio da Milano a Roma? Dai. Con i soldi miei! Certo, tu hai. Vergogna! Chiamate radioascoltatori! Ma perché si è vergogna? Fatto pagare il viaggio dalla Rai! Per forza. Col mio canone! Chiamate! Chiamate vergogna! Cosa? C'era il buffet anche? No, non c'era. Non c'era il buffet. Era poverissimo. E poi voglio sapere questo: ma quello che apre la porta, quel maggiordomo, c'era. Ma a che serve? Ma no, è stupendo. Ma perché deve aprire la porta? Sei invidioso. Io vado ai matti. Quel maggiordomo mi manda ai matti. Quel maggiordomo della Rai mi manda ai matti. Però ci torneremo. Stasera, Cruciani, ospite di Porta a Porta. No, non so se vediamo se usa lo stesso registro che usa qua. No, te lo dico. In questa trasmissione. Nessun cazzo. Dal dottor Vespa. Oh, scusi, però... il dottor Vespa, posso intervenire? Posso? Vai a fare in culo, scusi, vai. Dottor Vespa, scusi. Allora, ragazzi, ieri però, proprio nella trasmissione di Vespa, si parlava della vicenda di Asia Argento. Sentite cosa ha detto il signor D'Agostino. Ignorato questo piccolo passaggio d'agostiniano. Sentiamolo, dovete aguzzare un po' l'orecchio. So che siete in macchina dopo una giornata, volete divertirvi, non volete concentrarvi troppo. E io sono con voi, non sono dalla parte di Parenzo, che invece vuole farvi concentrare, riflettere, dopo discutere. Dopo parleremo della vicenda Visco. No, perché non è stata voglio sentire quella parola. Ottimamente spiegata da Barisoni, ma noi torneremo a fare un approfondimento su Ignazio Visco. Il bidet, eccetera, eccetera. Vai. La domanda, però, voglio dire, la domanda è molto semplice. Ma quante donne invece vanno a cercare questo? La domanda... Quante donne sono coloro che vogliono ottenere successo? Scusate, e non gli importa niente. È stata una diva. Dopo il bidet passa tutto, dico. Un'intervista bellissima. Dopo il bidet passa tutto. Però Vespa non l'ha colta. Non l'ha colta questa non cosa. L'ha sottolineata. No, non l'ha portata. Non l'ha portata al centro del dibattito, facendoci quel meraviglioso titolo in quel meraviglioso schermo. Dopo il bidet passa non l'ha tutto. Fatto. Domanda: tu cosa avresti fatto invece? Cosa amico mio, di fronte a questa frase di D'Agostino. Come mai? Torniamo all'argomento. Sì. Cioè, la questione è molto semplice. Dice D'Agostino: molte donne vanno a cercare quella situazione di Asia Argento. La vanno a cercare loro volontariamente. Ed è così. Non è il caso di e Asia. E dopo il bidet, magari fa anche schifo alle donne andare con i produttori grassi, ma schifosi, certo, lardosi. Ma è una porcheria. Però, dopo il bidet, dice D'Agostino, passa tutto. È una schifezza. Di fronte a una parte, di fronte a un lavoro, ma di fronte a qualcosa di concreto. Non per Asia, che non ieri, mi sembra, amico non mio. Non per Asia, che ieri ha spiegato che poi non ha avuto nessun tipo di vantaggio perché si è rifiutata di fare qualunque film con quello schifoso lardoso. È andata insieme a Cannes, da altre parti. Ma ha spiegato perché? In ma ha spiegato, intervista. Ma quello che dice lei, cosa vuol dire? Cioè, di fronte a una cosa che è scoppiata, poi ognuno e ha allora la sua perché versione, lo fa? No? Perché si è tirata addosso tutta questa cosa? Perché ci lo sono fa? Tante versioni su questo. Comunque, ragazzi, zitto fascio, che è il modo in cui si è rivolta nei miei confronti la signora Sargento. A me non me ne frega un cazzo, figurati, cioè non è che mi sono offeso di fronte a questa cosa. Però sta, è la fotografia. Te lo meriti. È la fotografia dell'intolleranza, della mancanza. Cioè, se tu dici una cosa che non è politicamente corretta, se tu dici una cosa che è contro l'opinione di una persona, in questo caso la signora Sargento, l'unico modo in cui una persona intollerante ti risponde non è controbattere, non è argomentare. Ma cosa c'è da argomentare? Zitto fascio. Ma scusa, quelli di mi Libero. Ha ricordato, aspetta, mi ha ricordato. Ti ricordi Mario Brega, film con Verdone? Ah, certo. Guarda, amico, avete pescato sto pezzo o no? Regia! Vai! A me fascio. Io fascio. a socco lega, mica so comunista così, sa, so comunista così. Sì, però amici miei, il pezzo è questo, certamente, regia milanese. Crew zanzaresca crew, a Milano, crew buono, flotta crew, zanzaresca crew, a Milano. C'è la parte precedente quando lei, la ragazza di Verdone, ciancica la, no, mastica la gomma e dice: zitto, fascio, che mio padre una volta che mi ha detto. Sentiamo, andiamo via. Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia. Attento, fascio, che non ci metto niente. A me fascio. Io fascio. A socco lega, mica so comunista così, sa, so comunista così. Beh, stupendo, ragazzi. Zitto fascio, non lo sentivo da una ventina d'anni. È buono, zitto. E quello era attento fascio, ha detto attento fascio, dico, io non ci metto niente, attento fascio. Così si esprime Asia Argento, zitto fascio. Beh, ragazzi, ma chi se ne frega poi? È molto forte Asia, molto provata. La sentiremo, troppo, fermi tutti, fermi. Grazie Roberto D'Agostino, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Allora, io trovo assurdo che voi abbiate fatto una puntata parlando di Asia Argento e non ci sia stata neanche una donna in grado di dire una cosa. Una persona, una donna, dovrebbe fare successo non perché la dà, ma perché è brava a fare quello che fa. Mi sembra ovvio. Una lavata, un'asciugata, la famiglia è più brava. Mi sembra che quell'ascoltatrice dica una cosa assolutamente ovvia, cioè non c'è bisogno manco di rispondere. Che vuol dire nessuna donna? Sono intervenuto un sacco di donne dicendo che c'è un errore iniziale, che è quello di cedere. Se cedi, poi o denunzi subito, ma non fai come ha detto ieri. Lei sai cosa ha detto ieri? Io ho denunciato, non è vero che ho denunciato dopo 20 anni, ho denunciato subito, sì, ma al cinema. Ho usato altri strumenti, perché al cinema, a differenza dello stupro, al cinema, ci ha fatto un film sopra. Ma tu vai dal magistrato, dal poliziotto. Però una ragazza di 21 anni di quell'ambiente, cioè il cosiddetto stupro alto e lo stupro basso. Che... lo stupro alto è quello che avviene in queste modalità. Stupro alto e basso. Cos'è lo stupro alto? Lo stupro a 5 stelle, che non ha nulla a che vedere con il Movimento 5 Stelle, ovviamente. Lo stupro negli hotel di lusso, in ambienti di lusso, fatto da ambienti di lusso, e poi c'è lo stupro della stazione centrale, quello fatto dai criminali. Ma in questo comuni. Caso non c'è nessuno stupro. Allora, è chiaro che è una forma di stupro, cioè di violenza, di sopraffazione dell'uomo bestia sulla donna. Vabbè, sentiamo, questo dopo è. 2 anni ho denunciato al cinema, però. Ma dai, vabbè, questo dai. Allora, io non ho aspettato 20 anni, perché dopo 2 anni che è successa questa violenza io avevo denunciato la cosa con l'arte, diciamo, con un film che avevo diretto che si chiamava Scarlet Diva. Il mio primo film l'ho diretto a 23 anni, nel 99. Io avevo raccontato per filo e per segno quello che era successo. Nessuno se n'era accorto, però, cioè, non ce ne eravamo accorti di questo racconto artistico sullo stupro subito dal signor Weinstein, da parte di Weinstein, stupro subito dalla signora Sargento. Nessuno se n'era accorto. Nessuno. No, però la cosa incredibile, dai, ragazzi, è insopportabile, che ci sono più di 40 denunce. Cioè, dopo l'intervista di Asia, nessuna denuncia penale, non c'è stata nessuna denuncia penale fino adesso. Forza, perché è avvenuto 20 anni fa. No, ma la cosa più incredibile della signora Sargento è un'altra, che a un certo punto dà la sua spiegazione, per carità, io non discuto sul fatto che uno... Ma non ho capito, cos'è che non vi piace? No, ma io non discuto sul fatto... Non riesco a capire, perché l'ha fatto 20 anni dopo, qual è la critica? Allora, no, ma perché senti, ricca, ma si sente... è bella, è una donna provocatoria, bella, non lo so. È una ragazza, senti, ma perché? Tanti anni di Berlusconi hanno portato all'umiliazione della donna. L'ho visto ieri in diretta a Carta Bianca. Ma fallo sentire agli ascoltatori, no? Vabbè, fallo sentire. Ora non vorrei cadere sulla politica, però penso che tanti anni di Berlusconi, della visione femminile berlusconiana della femmina, abbia portato un po' alla, anche alla umiliazione della donna, della visione della donna di se stessa. Se io non so, mi viene richiesto di essere sensuale. Allora, se io non sono sensuale, allora cosa faccio? Sono pudica? Oppure se lo sono, cosa sono? Sono una prostituta? Allora ragazzi, il consail di Berlusconi, ottimo. Ma no, vabbè, ma no. La visione berlusconiana. Ma no, è un modo di dire, è come dire, abbiamo vissuto un contesto nel quale la donna passava per il cosiddetto letto di ancore. Tanti anni di Berlusconi hanno portato all'umiliazione della donna. Questa, ma è una sua posizione, una sua idea. Ma è una puttanata. Il lettone di Putin, eccetera. Dopodiché, è una puttanata, lo sai anche tu. Ma dopodiché voi per vent'anni avete massacrato Berlusconi. Tu l'hai massacrato. L'avete massacrato. Tu l'hai massacrato. Per vent'anni l'avete massacrato. Ora, fare una riflessione pacata su quelli sono stati i vent'anni del berlusconismo e il ruolo della donna, si può anche ma come smettila, dire, no, dai, smettila, è una buffonata, dai, una buffonata incredibile. Ah, dice anche che non ha più permesso a un uomo di farmi sesso orale, cioè sì, la famosa leccatina di cui ha accusato Feltri. Beh, cioè ha detto una porcheria inaudita. Ha accusato Feltri, una lavata, un'asciugata alla Parminga adoperata. Dice non ho più permesso a un uomo di farmi sesso orale. Vabbè, pazzesco, poveretta. Ce ne faremo una ragione. No, ma lei ha subito una violenza incredibile, non può più fare quella cosa lì, ma capito? È terribile. Ci credi tu, sinceramente, sì, ci credi? Certo, perché dovrebbe dire? No, ma la domanda, ci credi o no? Ma certo, ci credi? Ma cosa devo fare l'analisi? No, la domanda, ci credi? Certo che ci credo, se lo dici che va perché? Per carità. Ma perché ce l'avete per così con Asia Argento? Perché? Cosa va fatto? Sentiamo. La tua intimità e il tuo rapporto con gli uomini, come hanno risentito, se hanno risentito di queste vicende? Io non ho mai più avuto, non ho mai più permesso a un uomo di farmi del sesso orale. Cioè lo dico chiaramente perché così capisca la gente, che per me è un trauma che non è più passato. E non mi sono più fidata degli uomini per tantissimi anni. Ancora sinceramente non mi fido e li metto sempre alla prova, perché c'è da stare attenti, soprattutto con quelli italiani. Allora, ieri ragazzi è intervenuto un ascoltatore from Naples, no, anzi da Bergamo, contro i napoletani, contro la campagna i napoletani. Faremo ascoltare tutto alle 19:15 integrale quasi. Brutto anche perché ha riattizzato quella che sembrava una cosa ormai anche superata, antica, se vuoi, sopita, no? Sì, c'è sì. Questa divisione nord-sud, in particolare vergogna. Nord-Napoli. No, eccetera. Non farlo risentire perché è brutto. No, come no? Proprio. Poi sei scemo, non farlo risentire. È brutto, ma una porcheria. Arturo da Torino, sentiamo Arturo. Brutto. Pronto? Dimmi Arturo, dimmi. Quello era più pirla di te, quello lì ieri sera, no? Che tu gli hai dato anche corda, no? Più pirla di me, che vuol dire più pirla di me? Che tu sei uno stronzo come lui. Perché sì. Tu invece di dire che la maggior parte della Milano da bere, no? Tutte quelle cose belle, sì. No? Sì. Anche grazie ai meridionali, soprattutto ai meridionali. Ma guarda che tu sei un bastardo, no? Che tu hai gli savi. Sì. Che tu l'hai salvo e che anche tu ce l'hai, si vede che anche a tuo amato qualche napoletano ha sfondato il culo, hai capito? Non ho capito, scusami, quest'ultimo dettaglio non ho capito. Arturo, non ho capito quest'ultimo dettaglio, cosa avrebbe fatto un napoletano a chi? A mia madre? Che cosa ha detto anche a tua madre? Vede che come fa la madre di quella bastarda ha rotto il culo, hai capito? Ma che dici Arturo, ma cosa dici? Cosa dici? Di cosa stai parlando? Che tu sei un pezzo di merda, un servo. E anche tu ce l'hai con i napoletani, no? No, aspetta, ma però bisogna distinguere, cioè avercela con i napoletani e pezzi. Perché tu servo. Mi facevi sempre la stessa domanda, puzza tua madre, non puzziamo i napoletani. Stai calmo, Arturo, stai calmo. Tu sei un bastardo, tu lo istigavi. Certo lo istigavo, assolutamente lo istigavo. Certo, lo istigavo, sì. Lo istigavo tantissimo. Possiamo un attimo, fermo. Mi pare una conversazione. Fallo trattare, perché se non mi coprissi dietro il microfono, che cosa faresti? Cosa faresti tu? Cosa faresti? Se succede qualcosa a tua moglie e a tuoi figli, tu li puoi difendere, tu non hai le palle. Ma che vuol dire se succede qualcosa? Mi stai minacciando? Mi stai minacciando? No! Se capiti che dovresti difendere i tuoi figli, no, non è minaccia. Arturo, stai calmo. Tu ti stai solo coprire dietro al microfono. Sì, lo istigavo, perché invece fuori dal microfono che cosa dovrei fare, scusa? Non vale niente. Che cosa dovrei valere? Dovrei fare un duello rusticano? Nessun duello, sei una nullità. Sì. Invece di dire tu la dovresti smettere quello lì. Ti faccio sempre la stessa domanda, perché puzza. Puzza quella puttana di tua madre. Sì, ma tu mi puoi insultare. Una conversazione dai no, toni ma lui mi un può po' insultare. Ostili, diciamo. No, mi puoi insultare quanto vuole, guarda, ma io... Lorenzo, guarda, io ti rispetto a te, no? Grazie, Non te lo conto e ti rispetto. No, per carità. Scusa, tu lo sai che sei un bastardo vicino, no? Che è un provocatore. Imbecille, scusami un attimo. Imbecille, Arturo. Sì. Ma ti sto facendo parlare per... avevi il diritto pillola. Aspetta, io nello stesso modo, adesso stai un attimo zitto. Io nello stesso modo in cui facevo parlare quello di ieri, perché volevo tirare fuori da quello di ieri tutto il livore che aveva nei confronti della tua gens, cioè dei napoletani, nello stesso modo sto facendo parlare te e sto facendo insultare mia madre, mia figlia, chiunque, per tirare fuori da te il peggio che c'è, perché siccome sei un cretino è evidente che sei semplicemente un agitato, vai a leggere, diciamo, nell'intervallo che abbiamo adesso, che abbiamo giornale radio, la definizione di cretino sul vocabolario, poi ti richiamo. È 19:15, fermi lì. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. La Zanzara. C'è tensione, tradimento. Dovete morire tutti all'inferno, bastardi, stronzi, merdosi. Ciao a tutti. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Cruciani, dia sto pezzo di merda che sta parlando, che quando parla della Campania si sciacquasse la bocca, questo cornuto, sta merda di essere umano, sto milanese di merda. Ha capito? Questo Lota! Vorrei dire a questa grandissima Lota lombarda, ne ho me merda, ti mangiato un gol e vanno tanto in terra, stu Loto! Allora ragazzi, torniamo su quello che è accaduto ieri con i tipi da Zanzara! Vai! Tipi da Zanzara. Se io non ti apro le porte di casa mia, tu non devi venire a casa mia. Perciò quando io sento quel napoletano che dice che vuole vendetta, ma di che cazzo di vendetta vuoi? Vabbè, quello gli hanno ammazzato il fratello e dice che vuole la punizione per chi l'ha ammazzato. Un napoletano, che tra l'altro adesso che siamo sotto anche al referendum per l'indipendenza, io non farei il referendum per l'indipendenza della Lombardia e del Veneto. Non è l'indipendenza. Farei un referendum, per abolire la Campania dall'Italia. Vabbè, adesso vi perché quella lì non è Italia, sono sporchi. Io ho girato l'Italia da nord a sud, ma una cosa schifosa come la Campania non l'ho mai vista. Ma perché? Cosa c'è di schifoso nella Campania? Cazzo, ma me lo chiedi anche. No, cioè, ma io mi ricorderò sempre la pila di gomme di automobili che bruciavano in parte alla strada. Si bruciano lo sporco, e in più in questi giorni ho anche sentito che, non so, un gestore di un albergo napoletano di Caserta è riuscito a farsi dare un rimborso perché da loro non funziona la raccolta differenziata dell'immondizia. Siamo solo noi i coglioni che dobbiamo stare attenti alla plastichina, all'altra cosa e la carta, e attenzione se c'è un po' di plastica. Questi qua vivono nella merda. Cancelleresti la Campania? Dici? No, la staccheresti. La renderai indipendente. Ma cos'è che ti fa orrore dei napoletani? Spiegami. Mi fanno schifo. Ti fanno schifo. Io non, cioè, la puzzano, questa cosa che puzzano. Farei uno stato a parte. Ma puzzano, che vuol dire? Che si arrangino loro, che si governino loro, che si autofinanzino loro. Magari gli prenderei anche un po' di migranti e li farei gestire a loro. Ma perché puzzano i napoletani, i campani? Perché puzzano? Ma allora, basta guardarli. Oddio, basta. Ma cosa vuol dire basta guardarli? Basta guardarli? Cioè, per te c'è proprio una razza campana, una razza napoletana, cioè un'etnia particolare che trasuda puzza, dici tu, o no? Ma a parte, mi fanno schifo veramente, sia come ragionano. Questo si era capito, diciamo. Non mi piacciono, cazzo. Non riesco a digerirli. Cioè, hai figli? Io sì, due figlie. Se si mettessero con uno di Napoli, che cosa accadrebbe nella tua vita? Ah, mi sa che lì sono veramente dei cazzi amari. Ma sono, secondo te, tutti un po' ladri, tutti un po' furfanti, tutti un po' Ma c'è bisogno che te lo dico io? No, ma dimmelo, sì. Non lo so, chiediamo. Non è così scontato la cosa. Cioè, secondo te, alla fine sono tutti dei grandi truffatori, questo è il punto. È proprio la patria lì. La patria della truffa. Io non sono per l'indipendenza della Lombardia, del Veneto. Io in queste cose non ci credo. Ma sei per la separazione della Campania? Quella via, non via Campania, via. Non è Italia quella. Cioè non praticamente tu sostanzialmente napoletani devono morire tutti, questo è il punto. No, no, no, la morte no, scusami. No, la morte no, sì. Io non voglio spendere un euro di quelle che sono le tasse che pago per i napoletani. Tipi da zanzara. Oh, ecco quello che è successo ieri, caro Parenzo. Sì. Tu naturalmente gridi al razzismo. Fa schifo. Io non l'avrei riproposto. Cioè non avrei, ma che sono, non avresti riproposto? Non cosa avrei riproposto dire? Un reato. Allora, ecco, il signor Arturo da Torino mi ha attaccato prima in maniera forsennata. Forse un po' forte, sì, sicuramente. È ancora in linea qui da noi, signor Arturo, mi sembra. No, Arturo. Vabbè. E dicendone di tutti i colori su mia madre, mia sorella. Questo cioè, sbaglia, ma noi siamo qui ad accogliere, a prenderci le pietre. Io sono qui a prendermi le tue pietre, caro Arturo. Cosa cazzo vuoi da me? Io l'ho spronato per far uscire la verità anche da te, anche da quella tua bocca maledetta, anche da quel tuo pozzo senza fine di schifoserie. Arturo, dimmi. Hai sfogato la schifezza? Hai sfogato? Io ho sfogato. Allora, sei tu. Hai fatto parlare a quello lì per mezz'ora, no? Il mezz'ora che ha detto quella, ha detto una sola verità. Cosa? Lui è un coglione. Sì. E già lo sapeva. Ma tu la parola però cretino sei andata a vederlo o no? Sei andata a vedere la parola cretino o no? Alla fine sei andata a consultare la parola cretino. Scema, vuoi sfogare? No, ma non c'è nessuno, devo sfogare niente. La parola cretino, sei andata a vederlo o no? Il vero problema dell'Italia sei tu. Sei tu il vero problema dell'Italia. Io mi vergogno di essere il tuo simile. Penso un po'. Tu sei la schifezza dell'Italia. Vabbè, è evidente che non sei andato a vedere sul vocabolario la parola cretino. Ma non sei andato, come fai? Copi il sottoscritto, che fai? I napoletani sono a tua madre, stanno involato oppure a qualche Io capisco il suo astio, però penso magari proviamo a trovare un terreno di incontro e di ma non è un linguaggio che si vediamo se si calma un attimo. Mi date la musica di Porta a Porta, vediamo se l'insulto. Ecco. Buonasera, benvenuti al pubblico di Porta a Porta. Abbiamo un radioascoltatore che forse stasera è un po' agitato. Prego, ci spieghi le sue ragioni tranquillamente. Lui prego. Ha fatto di tutto quello che voleva e lì le faccio domande vanno a morire. Ma tanto muori tu per sta di merda infame. No. Ecco, però questo non è un linguaggio. Non è un linguaggio che noi del servizio pubblico possiamo utilizzare. Senta la musica. No, stronzo. Lucio dalla provincia non ha funzionato. Per calmare gli animi. Lucio dalla provincia di Pavia, vai. Allora Giuseppe, dimmi. Volevo spezzare la lancia a favore di Asia Argento. Perché vai pure, perché ma non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, cioè, ma è una violenza inaudita, purtroppo. È assolutamente squallido tutto quello che, bravo, meno male, che sta succedendo e che state facendo, cioè state attaccando lei perché la sostengo in tutto e per tutto, poverina. E non state parlando, a parte che lui è un porco maledetto, perché comunque... Ma non stiamo parlando di chi, ma tutto il mondo parla di questo Weinstein. State ragionando su un aspetto, una ragazza 20 anni fa, 17, 18, 19 anni, quindi no, 21. Una ragazzina, 21 anni, non mi sembrava una ragazzina 21 anni, signora Sergento, già ne aveva combinate di cotte di crude, giustamente, per carità. Ma non mi pare che 21 anni aveva combinato di cotte di crude, ma amico mio, è una persona, un giudizio morale, ma non è l'ultima delle arrivate, non è arrivata lì così sprovveduta. Ma cosa ha combinato lei? Devi considerare che lei si è ritrovata costretta e violentata psicologicamente nel dover compiere dei gesti perché sta inseguendo un sogno che è quello dello spettacolo. Poi ha fatto ma l'ha spiegato lei. Ha detto che non ha rivelato nulla perché teneva alla carriera. Ma più di questo, questo è quello che ha detto a te. Ma psicologicamente, no, a me non mi ha detto niente. Tu cosa sai se in vent'anni quanto possa aver sofferto di quello che ha fatto per 20 anni? Non abbiamo avuto conoscenza, noi ne abbiamo conoscenza adesso di questa sofferenza. Va bene. Io non sto giudicando la sofferenza. A me non mi sta su coglione assolutamente. Io guardo e giudico solamente le parole. Quando una dice la destra berlusconiana per 20 anni, è un giudizio politico che lei ha dato. Non mi basta questo per capire qual è cosa c'è dietro. Ma c'è dietro cosa? subito una violenza a 21 anni, chiusa in una camera d'albergo di lusso con un maiale ultra potente che nessuno voleva. Ragazzi, se volete limitarvi a questo racconto superficiale, va bene, limitatevi no, a questo racconto superficiale. Tu devi metterti in testa che per 20 anni si va dal magistrato, altrimenti 20 anni dopo non si dice nulla. Non è che si va, oppure se decidere tu quando una persona si sente pronta. Ma sono tantissimi casi di donne che a distanza, ma tra l'altro questo è uno, questo è il primo punto. Ciao Lucio, Vincenzo, non Brescia. Apertamente ma non questo. È vero. La... Poi non puoi decidere tu Vincenzo quando una donna si sente pronta di denunziare una cosa simile. Dimmi. Ciao Lucio, ascolti, io volevo dire solamente la mia, si guarda questa cosa. È un'autentica cazzata, secondo me, quello che sta dicendo lei. Perché se tu io voglio avere successo su queste cose qua, alla fine il personaggio bello me lo tengo. Ma come si fa? Che ha fatto lei 20 anni fa, ma perché gli faceva comodo. Ma come si fa a dire una bestialità simile di fronte a una violenza subita da una donna? Ma chi è lei per dirlo? Chi è lei per giudicarla? Parenzo, però le violenze sono tutt'altra cosa. Esatto, ma bravo. Che ne sa lei della violenza psicologica di trovarti chiusa nella stanza d'albergo con uno degli uomini più potenti del mondo? Sì, ma di cosa parliamo? Ma che cazzo sei andato a fare nella stanza d'albergo? Ma non lo sapeva, è stata tratta in inganno, è stata portata lì. Si fanno spesso quei colloqui in quel mondo lì. Ma insomma, c'era una sorta di accordo, dai. Fermi tutti, fermi, fermi là, fermi. Parenzo. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara. E sti cazzi! Ciao bestie, un bacione dalla Thailandia. Mia moglie deve dire una cosa. Parenzo, vaffanculo. Ciao belli, Crux, ti adoro. Mi fate cagare, ma vi voglio bene. Mi fate schifo, ma non riesco a fare a meno di voi. Vi odio con tutte le mie forze, ma vi amo, vi amo, vi amo, amici miei. Siamo al top. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Questa è Pulp Fiction. Bravo, Pulp Fiction. Pulp bravo, Fiction, bravo, bravo, Pulp Fiction. Allora, sempre sulla vicenda Asia Argento, D'Agostino. Sì, poi più tardi abbiamo anche un ospite qua in studio, no? Adesso, no? Fra poco. No, fra più tardi, più tardi. No, che più tardi? Perché lo vuoi far aspettare troppo? Facciamolo aspettare. No, no, no, non si fanno aspettare troppo gli ospiti. Si fanno un po' friggere. E qua, si fanno e qua friggere. Seduto, qua dietro, nella sala d'attesa del gruppo del Sole 24 ore. Allora, D'Agostino... Questa chiagne fotte su Asia Argento, no, non questa chiagne non ti piace cosa? Non mi piace, cosa non ti piace? Giudizio cosa? Il giudizio di D'Agostino non ti piace. Il giudizio di D'Agostino non mi piace, posso dire. Parenzo, due punti non mi piace, è volgare, è cattivo, non mi piace. No, io dico non mi piace. D'Agostino, mi piace. Vai. A Roma dicono chiagne e fotte, non so come tradurre il non successo. Lo so, non lo voglio questa sapere. Chiagne e fotte, perché dopo un anno si è fatto produrre sei solo il film. Volgare. Per 5 anni la signorina ha avuto rapporti. Boh, o meno. Lo sai? È di presente? Va bene, ma non dobbiamo giudicare, non siamo qui per giudicare. Allora, c'è una signora che si chiama Conchita Borrelli. Ma che cazzo è questa Conchita Borrelli? Lo sai che non la conosco? Forse un'attrice, non lo so. Dice, Asia Argento non muore di fame e l'ha data. Cioè, non è che moriva di fame... ha scelto di darla, dice questa signora. Cioè, vedete che non tutte le donne sono solidali. D'altra parte, è una di quelle, ripeto, che ha dato alla, ha detto della Meloni che è una lardosa fascista. Ma una schiena cosa c'entra? Di una lardo... sbagliato, sì. Ha detto una cosa stupida. Ragazzi, vabbè, sentiamo, dai. Sì. Allora, la signora Argento non moriva di fame, non era lì per il pane, non era lì per un'istanza forte di sopravvivenza, era lì per produrre, per partecipare a un film, oltretutto un lancio di carriera. Il che cosa significa? Che lei non ha rinunciato per vanità, per carriera, perché le piaceva fare l'attrice, per la visibilità. Criticando. Non ha rinunciato e volgarmente, perché mi piace essere volgare, l'ha data. Questa è brava questa Borrelli, mi sembra brava questa Borrelli, mi sembra brava. Allora, Nadia da Pavia, vai Nadia. Comunque mi scrivono giustamente qui in diretta, non dirò il nome, che siete degli uomini medio man proprio, cioè dei medio. Sarà una donna sicuramente. Sì, una donna, una mi scrive. Medio man, che vuol dire medio man? Ma che cazzo vuol dire? A partire da te. Ma non ho capito, uno non può avere un'opinione diversa dal politicamente corretto, dalla marea montante. Ma non c'entra nulla, non ho schermato il politicamente corretto. Qui è semplicemente mancanza di rispetto verso una donna. Entra, che ha subito una violenza. Ma siamo qui il politicamente violenza, corretto. Ma quando sì, lo certo. dici adesso il una politicamente violenza, cosa una violenza? Non puoi decidere tu quando una donna noi decide di superare il dolore e mettersi a nudo letteralmente. No, non dire di togliere. Cosa fai? Mi togli l'audio? No, ma fai dei segni audio, alla regia qui. No, io adesso sto qui fino alle 21:50 a parlare di come siete medio man proprio. Medio Nadia, man. Dimmi. Sì, buonasera. No, stavo proprio ascoltando Davide, proprio non sono d'accordo per niente. Vabbè, perché mi spiace, perché poi solitamente sono abbastanza in linea con Davide, ma io ho chiamato perché ho sentito qualche stralcio delle interviste di Argento, l'ho seguita poco perché è irritante. Irritante è un giudizio suo, personale, va bene, ma no, irritante Davide, non c'entra col fatto, signora, non c'entra con il fatto, irritante, cosa vuol dire irritante? Irritante, uno giudica quel che uno dice, dirlo. Non se... No, se posso dirlo, spiego perché è irritante, perché sono una donna e non oso pensare che cosa possa significare su di me un oltraggio come uno stupro. E uso proprio la parola non c'entra stupro, niente lo stupro in questa occasione. Ho spiegato, ragazzi, esatto, è un insulto alle donne che sono state veramente stuprate. Ci sono diversi tipi di violenza. Esatto, ci sono diversi tipi di violenza. Certo, ma Davide, non sapete nulla. C'è la violenza fatta alla stazione centrale di notte da sbandati. Davide, e c'è la violenza del potere, dell'uomo che ha potere. Avete una donna in un ruolo di comando, non stupra un uomo. Una donna in un ruolo di comando non stupra un uomo. Non lo stupra fisicamente. Non lo può stuprare, Davide, non sapete un cazzo. Questo no, è il punto. Vero, chiedo Nadia, scusa per la parola, Nadia, ma no, è così. Nadia, non ho ci vogliono più donne in posti di potere, si diminuiscono dire, le violenze. Ma no, davvero. Ma la donna non stupra l'uomo. Aspetta, scusa, Nadia, aspetta, dimmi, stai dicendo? No, però scusa, partiamo dall'inizio. Siccome ci sono delle donne che sono costrette a certe situazioni, allora è vero che davanti a certe cose magari anche la più forte, la più tosta, si paralizza dalla difficoltà della situazione. Va specie bene. Se è una persona potente. Specie se è una persona potente, no? Ma sì, potente, una persona però potente. Tutti noi sappiamo, noi donne, perché se tu hai 22 anni, sei negli Stati Uniti, sei in una camera d'albergo di lusso e sei con un produttore che sicuramente è anche noto nell'ambiente. Perché scegli non credo di farlo, che dai, su, ragazzi, ma non siamo nati ieri, dai, anni, su. Vuol dire che tu sai che situazione. Non è mica che come poi lo stupro. Siete. Esatto. Ciao, Nadia, grazie. Ciao. Allora, con noi Mario Adinolfi. Buonasera. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Allora, innanzitutto, il titolo del libro in uscita proprio in questi giorni, insomma, nell'ultimo mese. Qual è il titolo, Mario? O capiamo o moriamo. Te lo sei prodotto da solo, te lo sei pubblicato da solo. Sempre autostampato, come voglio la mamma, il precedente, quindi... Ma hai detto che hai guadagnato un sacco di soldi dal libro precedente, scusa. Diciamo è stato molto letto, questa è una cosa che mi fa 46, molto piacere. 50, quasi 50.000 copie il libro precedente. Un po' più di 47.000 copie cioè, in oltre 4 anni, tanto mi dà tanto, ci hai fatto mezzo milione d'euro. Ma insomma, adesso sono tanti costi, sì, tante cose. Insomma, mezzo milione di euro. Non facciamo i conti a una cosa che è complessa. No, facciamo. Così ci mandiamo il fisco. E lo facciamo pure a voi. Diciamo, i conti possiamo fare, noi lo facciamo fare sempre. In 3 anni è stato fatto un buon lavoro. Mezzo milione l'Italia guadagnato. No, guadagnato no, diciamo, il libro è incassato così, sì. Il libro è incassato così. Allora io voglio capire una cosa, tu sei stato criticatissimo in queste ore su Facebook, è anche bloccato. Adesso ha l'occasione per chiedere scusa. No, ma non deve chiedere scusa, figuriamoci se chiede scusa, perché all'occasione, sostanzialmente all'occasione, prima di dire cosa ha detto, io dico semplicemente poi sto zitto, non parlo più fino alle 21. Ha l'occasione che Radio 24 gentilmente la Confindustria, eccetera, gli offre di chiedere scusa. Ma perché? Ha un'occasione, ma è un'opinione. Per quella perché non ci sono opinioni in questo caso. Non è un'opinione, uno può hai dire dato della prostituta da sergento? Ho parlato di prostituzione d'alto bordo, per la precisione. Ho parlato di prostituzione d'alto bordo in un tweet e credo che questa storia, complessivamente la storia di Weinstein, sia una storia di prostituzione e non di violenza. in cui dobbiamo semplicemente capirci sulle parole, che cos'è uno stupro, che cos'è la prostituzione. Io, dopo aver fatto l'amabile conversazione con voi, andrò verso Ostia. Il Popolo, la Famiglia si presenta a Ostia, presento Giovanni Fiori stasera. Vabbè. Incontrerò delle signorine sulla Colombo, sì, che sono persone, sì, che stanno, ma in che un condizione è? Di sistema, già fai un paragone, di struttura, aspetta, di sistema piuttosto opprimente. Beh, diciamo, dipende, così, non tutte, comunque, molte quelle, sì, che trovi lì nel 99% dei casi, hanno in questa un papone, situazione, hanno su una, questo ha ragione, perfetto, cioè. E danno i loro favori sessuali in cambio di un qualche vantaggio, che è la contropartita economica in quel caso, e anche la paura che devono gestire nel rapporto con la struttura che le tiene. Dunque, in quella per te, posizione, quello che ha fatto la sergente è paragonabile. Io credo che esiste una dimensione della prostituzione dove la donna non ha piacere, evidentemente la prostituta da Cristoforo Colombo non ha piacere di subire le attenzioni di chiunque, come la sergente, dici tu, e una dimensione della violenza, la violenza, lo stupro, l'attenzione che poi sfocia in un'altra dimensione, può essere la denuncia, può essere anche stare fermi per un po' di tempo perché paralizzati, come si dice, e poi dirlo, ha come caratteristica quella che manca la contropartita, è un atto violento. Allora io penso che questa storia ci consente di fare una riflessione molto seria sul tema del potere. È una bellissima vicenda. Però andiamo al sodo. Non voglio fare il titolo. La sergento è una prostituta. Il tema è. L'ha detto già. Questa scusa. È una vicenda di prostituzione. E appunto, oggettivamente. In cui c'è una prostituta. C'è un sistema. Lo ripeto. Vabbè, un sistema. Un sistema dove c'è non solo Weinstein, ma un sistema complesso che produce una serie di benefici per le persone che si sono concesse a Weinstein. Questo tipo è un sergento, dato di fatto. Che porcheria. È un dato di fatto. E tu saresti e cattolico. Contrari, e certo, tu saresti un cattolico. Certo. E tu saresti un cattolico. Attenzione, ragazzi. E nel tu saresti Vangelo, un cattolico. Nel Vangelo. È una cosa incredibile. Nel Vangelo, quando l'adultera viene perdonata mamma da Cristo mia, e si dice, non scagliate chi è senza peccato, scagli la prima pietra. La fase successiva è va e non peccare più. Non fai come te pare, dunque, è una questione diversa, no? Perché visto il riferimento capito, tu però essere fatto al Vangelo, adesso insomma, non sfuggire alla cosa. Tu hai paragonato, Io non voglio sfuggire. No, quello che evidentemente, ragazzi, fermi tutti. Giuseppe, come te e come tutti, non voglio noie, rotture le palle legali. Allora, il tema è che io affermo qui, come ho affermato sul Twitter e come ho affermato sempre, che questa è una vicenda di prostituzione in e cui non di violenza. Dunque c'è una prostituta. In cui in il sistema hollywoodiano costruisce una condizione per cui le beneficiate del rapporto con Weinstein hanno un'importante contropartita di natura economica. Ma non è nel caso di Asia Argento che lascia ha rifiutato stare, ogni è ma questo. No, è un fatto. Tu dimentichi i fatti. Mettiamoci e dai, nei fatti. Della, lei della prostituta no. Asia Argento ha rifiutato. Ha rifiutato ogni tipo di anche ragazzi, regali di quel maiale. Lo ha detto ieri. Ma tu saresti ma un cattolico? Detto ieri. Ma che cattolico sei? Lo ha detto ma ieri. Ma di fronte a una donna che ha subito una violenza, dovresti sciacquarti la bocca. Con chiarezza. Ma io non lo so. Ma a Bianca Berlinguer ha detto con chiarezza che lei era una ragazza di 21 anni che aveva già vinto due David Donatello. Non aveva bisogno dopodiché di arriva, al produttore. Arriva a quella condizione, dunque in una condizione di totale privilegio, e avrebbe potuto fare come quella collega sua, a cui Weinstein ha offerto il ruolo di protagonista in Chocolat, che è un'attrice italiana il cui nome e cognome noi non conosciamo, il grande pubblico non conosce, perché ha detto di no ad Harvey Weinstein e ha difeso così la dignità sua e credo anche delle donne nel mondo dello spettacolo. Però, dicendo di no, su questo io sono perché d'accordo. C'è una differenza sostanziale tra dire sì, no, assumere tutti i benefici e quando Weinstein va nella polvere su una dire tragedia. Che Weinstein è un cane e invece dire no quando Weinstein stai è potente la moviola sulla tragedia, caro David Parenzo, il no si dice nel momento in cui c'è ma il ne sai tu nel di una donna che si è sentita violata nella sua intimità in una camera Parenzo, d'albergo a 5 stelle no, da un omone si dice, più grasso di te no, ma che dice, dici? Ma no, che dici? Si dice ai potenti ma chi, quanti si sono in grado di farlo? Potenti. Quante donne sono in grado capisci di farlo? Capisci questo concetto? Ma noi parliamo qui da una studio si radiofonico ai potenti. Però scusa Mario, tu stai dicendo ma che noi adesso se hai la condizione della tua dignità il no lo dici in faccia a un potente, ma parliamo dalla condizione privilegiata di uno studio radiofonico che secondo me è utile. Allora, guarda, però, secondo me è utile. Allora, secondo io sono abbastanza d'accordo. Sul io sono d'accordo e sull'insulto ragazzi, personale. Io ho detto i miei impara no. la anche io te. Io ho detto i miei no. Che davanti al potente devi saper dire un no. Lo faccio però, costantemente. Ragazzi, fermi tutti. Io però voglio capire una cosa. Io devo dire la verità. Su questa cosa qui sono d'accordo con Adinolfi. Lo posso dire senza essere tacciato di essere definito un porco, eccetera. Sono d'accordo con Adinolfi. Al di là della questione prostituzione o meno. Perché Giovanna Rei non ha notorietà e successo? Perché dice no al potente che le offre il ruolo da milioni di dollari nel film hollywoodiano. Allora, e con quel suo no tutela la sua dignità. Tu mi stai e la dicendo che femminile. Adesso Sargento parla perché Weinstein è meno potente, cioè si può attaccare Weinstein. Ma questo adesso è ovvio. Tutte, no, Sargento, tutte queste hanno parlato. Non ha avuto alcun beneficio dal produttore. Sargento ieri ha detto testualmente alla Berlinguer: prima era il primo produttore di Hollywood e sosteneva economicamente, era colluso a tutto, ha usato queste espressioni. Denunce insabbiate dalle autorità giudiziarie. Dava i soldi ai presidenti americani, perché questa è la cosa, pagava i Clinton e gli Obama. Dopodiché è uscita da quella storia, oggi ha detto a Sargento, a Barca Berlinguer, è il 200° dei produttori americani, non conta più nulla, e quindi gli è arrivato addosso tutto questo. L'ho fatto per signori. Comodo adesso, dici. Tutti, questa storia nasce perché... Fermi, questa storia nasce perché... La Zanzara. Lorenzo, quando dici le parolacce, mi ecciti. Allora ragazzi, qui la cosa è abbastanza evidente. Dice Adinolfi che non c'è una denuncia, mi sembra, dalla procura di Los Angeles. Oggi alla procura di Los Angeles, tant'è che il procuratore è andato oggi a fare un appello in televisione dicendo: denunciate, fateci arrivare le denunce. Ci sono solo accordi fatti tra Weinstein e altre donne e quindi... che si sono messi d'accordo per i soldi, per i soldi, per se resto. Io fossi stato violentato non avrei accettato un accordo con soldi. Ma posso dire che questa è la differenza? Ma che c'entra? Ah, dipende dalle persone? Ma che c'entra? Uno dopo vent'anni a dire se fai una battaglia di vita, se fai una battaglia di vita, se hai subito una violenza, puoi dirlo anche dopo 22-25 anni. È piena la letteratura e la storia di episodi di persone che hanno subito violenze e che hanno avuto economico il coraggio. Ma quello che c'entra? Scusa, secondo te è legittimo? È legittimo comunque dare... mi scrive Giulia Innocenzi, dice: siete, sono degli zero men, l'Argento va ringraziata per il suo coraggio, basta col coraggio? Processo alle vittime. Ma che basta col processo dicono, alle dicono vittime. Dicono che stai facendo un processo alle vittime anche tu. Questo gioco di fare di Argento un'eroina, secondo me è un errore proprio strutturale. Tu dici non è un'eroina ma è simile a una prostituta sulla come in Italia ci sono simile a una prostituta. 13 milioni, ho detto che è una vicenda di prostituzione. Beh, uguale, 30 hai fatto il paragone milioni, con una prostituta ostica. 30 milioni di persone sono le donne italiane, di cui 1.400.000 secondo Istat hanno ricevuto violenza o hanno subito un tentativo di e hanno denunciato. Sì. Hanno ma denunciato 1.400.000, vuol dire che forse se bisogna scegliere una capofila e una donna veramente, diciamo, rappresentante della dignità femminile, sì, forse è meglio andare a cercare una donna che prende 1.000 euro al mese e ha dimostrato dignità denunciando il suo datore di lavoro. E sono 1.400.000, David, in Italia, quelle che hanno fatto questa cosa tempestivamente. Ma che differenza c'è tra una donna che ha deciso violata se tu la che ha deciso di farlo se in una modalità e in un'altra, se rimane tu, la violenza, se no? Tu la ribellione, ma perché fate la viola. Se la ribellione la vuoi violenza. Praticarla rispetto a un potente, ma è efficace se la pratichi mentre il potente è potente, altrimenti non fatto, c'è nessuna Mario, efficacia. Scusami, tu mi dici cerco il titolo, eccetera, però tu prima hai fatto un paragone. Cioè la prostituta che io tu ho incontri detto una cosa via precisa e Asia Argento io hanno lo stesso ruolo, fanno precisa. La stessa cosa. È tu una dici. Vicenda di prostituzione. E ho capito, ma hai fatto il paragone con una prostituta che sta sullo Ostiense. Io quello che ho detto ho detto. E ho capito. Poi tu fai la traduzione che vuoi. No, la traduzione. Quello che ho detto ma no, ma io quello che ho scritto quindi è tutto una notizia lì. Tremenda che ce la dà Marco Perduca. Per soli 8 voti non è passata l'autocoltivazione per fini terapeutici della cannabis. 8 voti segreti, una notizia drammatica, noi alla fine, una notizia drammatica, cioè, terribile contro la legalizzazione della droga, per la cannabis a scopi terapeutici. Ma ti sei pazzesco. Fatto una canna qualche volta in vita tua? No, mai fatto una... è sbagliato farsi le canne, anche una sola penso è sbagliato. Che drogarsi non sia un bel messaggio. Ma a fini terapeutici la cannabis a fini terapeutici io penso che farsi le canne sia un errore, ma a fini terapeutici che c'entra? Questa era una cancello da cui far entrare poi il fine ricreativo, quindi meglio così, detto. Ma non ho capito, se uno ogni tanto, ma fa molto l'alcol fa molto io peggio. Io sono totalmente contrario all'utilizzo di sostanze sia alcoliche che stupefacenti che altri in una cosa. Bisognerebbe proibire anche l'alcol, allora proibire anche l'alcol. Una volta si proibiva, insomma. Mi scrive un importante fotografo romano molto conosciuto in alcuni ambienti. Puoi dire a quell'idiota di Adino, mi ha scritto adesso, poi testuale, chiedo scusa, puoi dire non dirò il nome del fotografo. Puoi dire era quell'idiota di Argento. No, siamo Sergento, noi che non diciamo i nomi dei registi. Non lo querelliamo, noi stai tranquillo. Puoi dire a quell'idiota, ma magari lui non vuol far sapere questa storia. Puoi dire a quell'idiota di Adinolfi che io a 17 anni sono stato chiuso in una stanza d'albergo da un alto professore, carissimo amico di mia madre, che ha tentato di abusare me e io me ne sono stato zitto per 10 anni. Io ero un uomo e lui era gay, me lo sono ritrovato con il pene in mano. Quindi lui ci ha messo 10 anni, dice questo importante. È stato stuprato alla fine o no? Fotografo. No. Si è ritrovato col pene in mano e scappato via, traumatizzato. Perché dici no, solo? Va benissimo, solo. Per carità, no. Solo. È diverso trovarsi col pene in mano, essere violentato, viola, penetrato. Ma amico cosa mio. Vuol dire diverso? No, ma è una violenza inaudita, inaudita. Ma questo per dire cosa? Non ho capito. Per dire che uno ci può... Per l'idiota questa era l'unica finalità di Parenzo, era questa. No, mia no. Grazie Parenzo, venderò la pariglia. Non ti preoccupare, ti posso dire arriva... che non l'ho detto io. Sì, io voglio capire una cosa: tu sei contro anche, cioè vorresti proibire anche l'alcol? Io non spero che le mie figlie lo consumino poco, ed è proibito. Ti faccio questa notizia: per i minorenni è proibito. Ma tu lo dalle 23 proibire in poi, se vai per strada a Roma, non puoi acquistare alcol. E io sono d'accordo con chi fa questa ordinanza. No, questo può tu essere sai, giusto. Tu questo, sai questo, che questo, la, ha ragione. La, che oggi procurarsi un po' di fumo è una cazzata pazzesca. È una minchiata. Certo. Bene, cioè, continuo a preferire che sia illegale. Meglio che i soldi li faccia lo Stato con questa roba e qui. E con questa logica, siccome ti do un'informazione della torta della droga, il 90%. Arriva da cocaina, oppiacei, sostanze psicotrope di altra natura, allora legalizziamo tutto. Mi sembra ragionevole. Se questa è la motivazione, dobbiamo legalizzare tutto. Ma no, vabbè, fermi tutti, ragazzi, fermi là, dove torniamo con Adinolfi. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Naturalmente. Pronto, pronto, prima si parlava di Mussolini. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, fa cagare. Parenzo, coglione e stronzo, che non sei altro. Spero che un giorno vengano i ladri da te e ti spaccano la testa. Ma solo a te, non te lo auguro agli altri membri della tua famiglia. Solo a te, testa di cazzo, che non sei altro, che non capisci un cazzo. Coglione. Domenico da Ivrea, ha fatto bene l'avvocato. Chi entra in casa d'altri va fatto fuori. Non t'ho invitato, non devi entrare, non rompere coglioni. Vai a casa di Parenzo, visto che vi difende voi ladri. Vaffanculo. Sì, sì, perché giustamente i bravi ragazzi si arrampicano nelle case e vanno a rubare. Ma vaffanculo, va. Allora, abbiamo con noi uno scatenato Mario Adinolfi che ha difeso quello che ha scritto, naturalmente, su Asia Argento, cioè dice che si tratta di una storia non di prostituzione, cioè non di violenza, eccetera, ma di prostituzione di alto bordo. Sembra incredibile. Mi sembra incredibile. Eravamo sulla questione prostituzione, anzi su legalizzazione della droga, lui è anche contro la legalizzazione di ogni droga, dunque Nardella ha fatto bene a mettere quelle multe ai clienti delle prostitute, mi sembra, no? Benissimo. Benissimo. Anzi, di l'unico più. Modo con cui combatti veramente la prostituzione, ecco, è la multa ai clienti. Vi incontrate l'ebreo e il cattolico, su questo vi incontrate. Su questo ha perfettamente ragione. Ma si sa, sono gli studi lo dimostrano. È ovvio, ma questo studio non dimostrano nulla. Sì, sì, gli studi lo dimostrano. Ma adesso boh, attacchi allo studio, dai. No, viva studi... la libertà, viva la libertà di andare a puttane. Ma no, non c'è però, se vuoi libertà. Limitare la prostituzione lo fai con quel mezzo, ma se non no c'è fai come dici tu. Ma non c'è possibilità di limitarla. Ma che cos'è? La prostituzione va legalizzata. Ci deve essere la riprovazione sociale. Esattamente. Ci deve essere la riprovazione sociale per un comportamento vergognoso e illegale. Ma non ho capito perché no, bravi, vi incontrate, ma no, su questa ma cosa questo qua, è, mi stupisce che lui allo stesso modo il corpo della donna sia utilizzato in maniera vile dal maschio prepotente. E allora questo dovresti chiaro, dire lo stesso insomma. Del produttore, a maggior ragione. Cosa, non se lo mercifichi tu stessa, questo è un elemento. Ma chi te l'ha detto? Lei non l'ha mercificato, cioè, in alcun modo. Non signori, voleva stare in quella camera d'albergo. Qui sono, guardate le facce di quelle persone. Ma Gwyneth Paltrow è una persona debole. Insomma. Ma Angelina Jolie è una persona debole, ma Brad Pitt e Matt Damon che si vanno a arrabbiare perché Weinstein li ha messo, ma ovviamente non denunciano, sono persone deboli, sono persone strutturate dai milioni di euro e non c'entra? Hanno denunciato nulla. Ma perché ci metti perché in è un sistema? Ma perché mi sta così antipatica? Perché è bella, è ricca, è figlia molto. Di Dario Argento. Ma perché fate ma questa distinzione? Io ne parlo molto poco, io ma parlo della situazione. Ma la violenza è questo che tu e non dico capisci. Che mi preoccupa molto un sistema valoriale complessivo. Hai scritto anche che leccava il cane. Che è l'immaginario immaginario del nostro mondo occidentale, cioè Hollywood, ridotto a Sodoma. Mi dispiace molto. Mi dispiace, ridotto a Sodoma. Con Mary Strip che fa la predica e poi 10 minuti dopo dice: non sapevo niente di Harvey Weinstein. Leggete Scott Rosenberg, che è uno degli sceneggiatori e registi più noti di Hollywood, che racconta: ragazzi, sapevamo tutto, tutti eravate tutti là e siamo tutti complici. Ma non questo è un elemento, ma mica sono tutti assolti per questo. Ma cos'è Sodoma in Italia? Cos'è Sodoma oggi in Italia, per esempio? Ma non lo so, insomma, Sodoma, cosa in molti c'è ambienti della televisione italiana ci sono climi, c'è un clima molto simile. Di Sodoma me. Dici? La io penso che la prostituzione fisica e intellettuale rappresenti un dato caratteristico del sistema della comunicazione occidentale in generale oggi, e italiana anche. Cioè tu dici Rai, Mediaset sono preda di Sodoma e Gomorra. Ma io credo Gomorra, che, ripeto, Sodoma, prostituzione fisica e intellettuale sia una delle siano caratteristiche del sistema di comunicazione. Cioè quello che succede a Hollywood succede anche alla Rai o a Mediaset. Tanto, ragazzi, non è che sto dicendo niente sta sulla luna, avete sentito, immagino pure voi, sì, ho letto, no? Loris del Santo che dice, teorizza, sì. Come si chiama? Lori del Santo, che dice, fa benissimo. Dice, bisogna darla per avere qualcosa in cambio. No, ha detto, è legittimo, ha detto che è legittimo. Vabbè, quello, ma chi la sceglie di farlo? Quelli sono fatti suoi. Va benissimo. Rimane il fatto che Asia Argento ha subito una violenza. A me un mondo così non piace. Ma tu sei cattolico? A me un mondo così non piace. Ma tu sei un cattolico? Hai una trasmissione a Radio Vaticana? Sì, no, Radio Vaticana no. Dove? Radio Maria. Maria. Hai una trasmissione lì. Ma come fai a dirti cattolico e a mettere alla gogna una donna? Davide, ti voglio bene, ma no, su tutto. Ma io non ho capito. Fare tu l'analisi sul tasso di cattolicità. Uno che si definisce come cattolico. Aspetta, come la consideri? Fammi fare qualche domanda rapida. Come la consideri, sergento Mario? No, dimmi la verità. La persona che sta strumentalizzando un suo enorme errore, di cui si è reso conto, questo sicuramente si è reso conto. Ma quello che abbiamo come visto in televisione ieri è stata una vergognosa strumentalizzazione. E fammi dire anche alla collega Bianca Berlinguer che forse un paio di domandine un finino più puntute, invece di aver fatto la intervista addomesticata, ma l'ha detto lei. Ma è una persona che ha subito una violenza, che cosa gli devi, le devi dire? Io vengo in televisione perché tu mi hai assicurato che ma ha subito stata una violenza, ma che le devi dire a una qualcosa, che ha subito una violenza? Tipo, scusami, allora io voglio una cosa, la delicatezza della situazione, credo, no? Ci fosse qualcosa domanda rapida, l'uomo almeno. l'uomo che va a puttane, come lo consideri tu? L'uomo che va a prostituire, un essere spregevole, su questo ha ragione. Ma ragazzi, ma è normale andare a puttane? Io sono andato a puttane, sono spregevole. Sono andato in un bordello in Svizzera, sono spregevole. Sì, Io sono spregevole. Ragazzi, sì, un po' sì, però. Senza dubbio, io ho una figlia di 21 anni. Giuseppe, io non posso non pensarci, Giuseppe. Scusa, certo, bravo, non posso non pensarci. Ma non pensarci, che cosa, cioè, vuol dire? Mica, ma cosa vuol dire? Quella ragazza non si è facendo. È una ragazza che è figlia di qualcuno. E allora bravo, ha scelto di fare la prostituta, ha scelto di ottenere dei denari facendo la prostituzione. Io vorrei che questa scelta non fosse in alcun modo né incentivata da clienti come te né da legislazioni premiali rispetto a questo tipo di comportamento. Dunque, in Italia cosa bisognerebbe fare? A tappeto, punire i clienti a tappeto. Assolutamente a tappeto. Ma galera pure, galera. No, assolutamente, no. Con quello che ha detto Davide. Ma io mandare a casa la multa. Ma tu non sei nemmeno, d'accordo. Moglie, scusa, lui non è nemmeno d'accordo su questa roba qua, i condom, te li mostro. Guarda, li conosci i condom. L'ho detto qui più volte. Li conosci, tu sei d'accordo. Non uso i preservativi. Sono fatti suoi. Questi qua li conosci? Non li uso. Ma non li usi, non li hai mai usati? Sono contrario all'uso dei preservativi. Ma non li hai mai usati? Ritengo che l'educazione sessuale nelle scuole vada fatta insegnando ai ragazzi la sessualità responsabile. Dunque non usare non il preservativo. La sessualità responsabile. Dunque non usare vuol il preservativo. Dire che è meglio evitare di avere rapporti sessuali se non si ha una piena tu, coscienza, scusa, di quello. Cioè, ma dunque giri con non sei io credo. Tasca, tu, no, scusa. No, l'ho fatta apposta, no, non ti ma apposta. La vera domanda è, mi stanno scrivendo, ma tu perché giri ogni volta con dei preservativi allora, in tasca? A parte che è sempre cosa buona e giusta. Ma quello sicuramente, ma quanti rapporti hai tu? Ma no, con ma lascia donne? Perdere. Ma no, lascia perdere, giri. Ma non è normale che uno ogni giorno gira con dei preservativi in tasca? No, l'ho fatta apposta, sapevo che veniva Mario per mostrargli questa cosa. Contrario, li conosco bene alla no, dittatura del condo. Sì, ma come che dittatura questa anch'io. Del condo? L'hai usati qualche volta? Allora, una volta l'hai usati o mai? Un paio di volte quando ero ragazzino. Solo sì. Due volte da ragazzino. Credo poi due volte da ragazzino. Ma ci prendono le malattie senza questo. Le malattie si prendono. Quando ero ragazzino io. Diciamo, ma come da ragazzino tu non avrei avuto culo oppure comunque non ti è successo? Avrei avuto qualche rapporti. Ho avuto figli ed è stato bellissimo. Ma che c'entra fare figli? È chiaro che non bisogna usare il preservativo. Questo mi pare normale. Questa è una bella cosa. Di questi tempi in particolare. Ma che c'entra? È utile dire. c'entra che la dittatura? È bello fare una famiglia, avere figli, è una cosa meravigliosa. Ma che c'entra la dittatura del condom? Certo, io ne ho che tre, c'entra la dittatura del condom? È normale, i distributori dittatura davanti alle chiese ci vorrebbero, amico mio. I distributori no davanti alle chiese, davanti e alle scuole. E invece noi ci opporremo sempre a che noi questo accada. Ma è incredibile, sì, dai, su. Senti, una cosa, cioè, prima di liquidare Mario Dinolfi, che è sempre, come dire, un ospite graditissimo in questi studi. Ci abbiamo un audio, no? Anche forse. Cosa? Che audio? Non c'è un audio di una sorpresina questa cosa. Di una trattativa che mi hai fatto fare con un cinese sotto Radio 24. Non c'è l'audio. Non so se è l'audio. Non avete preso l'audio. Aspetta, adesso c'era adesso un audio perché mi è toccato. Questa è l'unica trasmissione nel quale i conduttori, questo mi sta un po' qua, devono anticipare, devono pagare i soldi di cose che comprano da portare in trasmissione. In genere, nei posti, come dire, c'è una comprare produzione, i preservativi, no? Quindi, no, quelli se ne comprate perché se li usa lui, non va in nota spese. No. Sai come diceva Mario Montanelli, no? Indro Montanelli andava in trasferta, poi metteva che so 100.000 lire, no? Coperte. E la nota era: no, l'uomo non è di legno. Usava questa dicitura qua quando stava in trasferta. L'uomo non è di legno. Scusa, secondo te siamo in presenza di, in attesa sempre dell'audio che precede l'ultima chicca con la di notte, è questa. Siamo in presenza di un'invasione islamica, secondo te? Eccolo qua, ce l'ho qua, guarda. Sì, questa io trattativa penso che ci sia un problema serio di vuoto dei nostri valori che alza il rischio di un'invasione di natura. Vabbè, adesso non fare religiosa, però il coso, dai, non fare Andreotti. No, cioè, funziona così, cioè funziona semplicemente. Cioè, hai paura dell'Islam? Figlia, no, hai paura dell'Islam? Io ho paura di vedere nelle scuole fra un mese e mezzo non poter fare la recita in Natale perché la sensibilità. Ma non succede, no, no, succede purtroppo. Ma quando c'è a succedere troppo, si farà un problema. La recita di Natale, si farà la nascita di Maometto, si possono fare tante cose, insomma, che mettano, dai, insieme. E che male c'è? È meglio difendere quello che siamo piuttosto che fare la nascita di Maometto. E che male c'è? Fai la festa di Natale, fai la storia del Natale, fai la nascita di Maometto. Ma tu spareresti dentro casa? Una pistola la prenderesti o no? Per sparare io dentro no, casa. Non prenderei una pistola, ma non riesco a colpevolizzare chi spara dentro casa sua. Allora, ragazzi, ce l'abbiamo sta audio o no? Sì, non ce l'ho qua. Ce l'abbiamo? Io la trattativa che ho fatto con un cinese, vai, per comprare questo oggetto che mi è stato chiesto da Cruciani. Sì, fallo sentire. Scusa, fratello, no, bilancio per pesare persone. Cioè, quanto costa? Così 11,90. 11,90? Sì. C'è qualcosa che costa 130 kg. Fino a 130 kg? Sì. Non funziona, mi contiene questo. Adesso prova. Non provare, tanto questo qui, ok. Allora, intanto bisogna dire questo: grazie ai cinesi che vendono oggetti di uso comune a basso costo. Cioè, lui è andato prima da una farmacia qua e gli hanno chiesto per una bilancia 60 euro. Ma dovevo anticipare io poi. Bisogna dirlo, vaffanculo. Invasione di cinesi. Sì. Cioè, i cinesi, che poi, tra l'altro, questo cingalese o indiano mi ha detto: noi aperti 24 ore 24. Lo volevo abbracciare, dico: grazie, fratello mio. Quelli sono gli impiegati di farmacia, fanno gli impiegati, chiudono, aprono alle 4 di pomeriggio. Signori, sapete questa cosa sulla ciccia? Discriminatoria, ecco, non la bilancia. Mi contiene quella. Ecco la bilancia. Allora, ho pagato Carlo Barisoni. Carlo Barisoni, vice direttore di questa rete, ho tirato fuori di tasca mia 11,90 euro. Che mi siano rimborsati. Che mi siano rimborsati illico atque immediato, altrimenti quest'audio ti perseguiterà per le prossimi anni. 11,90 euro di tasca mia. No, Mario, signori, adesso non mi regge 130 massimo. Sfondiamo, ha dato 11,90, sfondiamo sta bilancia. Sfondiamo, che ci prega? L'ho pagata io questa. Mica la Confindustria sta bilancia. La bilancia. C'è neanche la televisione che filma, c'è la TV, non so. Allora, aspetta. Allora, questa aspetta. È la bilancia. Dai. Eccola qua, la bilancia. Okay. Allora, vediamo facciamo ripeto, così. È discriminazione. Ma quale discriminazione? Se lo fate vediamo con gli LGBT si arrabbiano queste cose. Vediamo quanto peso io, con le scarpe e tutto. No, con le scarpe e tutto, quanto peso? Io peso, caspita, 68. Allora, Parenzo pesa 68, 60, con tutte le scarpe e tutto. Con le scarpe e tutto, 68 pesa. No, io non mi peso perché mi dà fastidio. Comunque, Parenzo, no, pesati anche tu. No, perché devo parlare, devo tenere devi il gioco. Lo show. Devo tenere allora lo show. Porto la bilancia al dottor Adinolfi. Sì, poi magari quando tu ritorni al microfono faccio la porta alla bilancia allora, Adinolfi. Aspetta, mi tolgo la cuffia. Togliti la cuffia, bene, fermi. Dico, No, microfoni ragazzi, per i microfoni vicini, sennò dentro il centro. No, fermo qua. Allora. Aspetta. Fermi. Sfascia, io dico. No, aspetta un attimo, fermi. 170. No, come 170? Sì, è andata, ragazzi. La bilancia dei cinesi, cazzo, funziona. Ha fatto benissimo perché ha preso anche il secondo giro, 130 più 40, 170. Ma prende il giro, prende. Sì, benissimo. Avete una notizia? Io non mi pesavo non so quanto tempo. Aspetta, insomma, un attimo, scusa. Avete una notizia? Facciamola bene sta cosa qua. Guarda, fa 130 di totale. Fallo tu pure con i tuoi mezzi, Davide, ecco, perché io, sennò, fallo tu con i tuoi mezzi. Giro. Aspetta allora che faccio anch'io il video. Ed ecco lì il giro a 40. Vanno, scendi un attimo, scusa Mario, scendi un attimo, scendi e risali, scendi. Allora, pronti qua, pronti. Adesso ecco, però ha scavallato 10 gradi perché ha scavallato 10 kg perché è andata avanti, insomma, guardate che è andata oltre la lancetta, Vai. Ecco qua. Via, mamma mia. E sono 170. 170. Bene, 170. Bene. Come cazzo fai 170 kg a campare? Io dico questo, come fa? Quali sono le difficoltà oggettivamente di campare? Io non sono, io figure se discrimino i grassi, i ciccioni, obesi, quello che è, non, no è un modo di dire normale. Come fai a vivere con 170 kg? Questo, ragazzi, si vive ognuno con i suoi limiti. Cioè il sesso, per esempio, non ognuno si può fare, è impossibile farlo. No, è vero, assolutamente no. Cioè con la prove, moglie è possibile, diciamo. Mingerlina tua moglie. Ma molto bella, insomma. Ma sì, è bella, d'accordo, è bella, aiuta, ma la massacri però, la massacri. Aiuta, non entreremo in questi lo dettagli. Lo so che non vuoi entrare nei dettagli. No, ha ragione, su questo ha ragione Adinolfi. No, ha ragione Adinolfi, secondo te, però davvero, non ti avrò su questo, d'accordo, ma il sesso si può fare con 170 kg? Assolutamente sì. Normalmente. E tantissime persone che sono anziane, che sono obese, che sono disabili, fanno sesso. Cioè, tua moglie deve fare uno sforzo, ti ama particolarmente, ti ama, diciamo la verità, ti ama molto. Barisoni, ma anche per questo ti ama molto. Barisoni, sta ghechina mi è costata 11,90 euro, che ho anticipato io. Altre difficoltà quali? Dimmi la verità, ci saranno difficoltà? Ma certo, tante difficoltà. Ma tu non, ragazzi, vuoi dimagrire, questo è il punto. Io? Non vuoi dimagrire. Non ho mai intrapreso una dieta. Non ti interessa dimagrire. Pesati tu. Sì, ma lui non vuole dimagrire per un motivo. Tieni la baracca un attimo. Che sì, mi... Pesati. Allora, si sta pesando in diretta Cruciani. Giuseppe Cruciani. No, ragazzi, allora, ecco, sta per salire. Poi metterà il video pubblicato. Verrà pubblicato. Eccolo qua. Sento che c'è però lo scavallo 90. 90. No. 90. Devi abbassare. 90. Perché... Cruciani, ufficialmente. Togli 10. Togli 10. Ma 80 con i vestiti. Sono 76, 75. Però a 52 anni non è male, va benissimo. Cruciani, dai. bravo, è falsa, ragazzi, perfetto, è cinese, buona comunque. Beh, vabbè, ragazzi, Mario Adinolfi, grazie. Grazie a tutti, ciao. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao. La Zanzara. Ho appena firmato la petizione, un atto dovuto di civiltà e progresso. A Cruciani, ma come non hai ancora votato per la petizione di Parenzo? Ma che cazzo aspetti? Vota! Avanti, vota! La Zanzara. Parenzo, assumi la roba. One zaba, two zaba, three zaba, hitta. Four zaba, five zaba, six zaba, hitta. Seven zaba, eight zaba, nine zaba, hitta. Four zaba, hitta. One zaba, two zaba, three zaba, hitta. Four zaba, five zaba, six zaba, hitta. Seven zaba, eight zaba, nine zaba, hitta. Four zaba, hitta. Four zaba, hitta. Assumi la Parenzo. Vabbè, Parenzo dice che ha già chi fa le pulizie, chi controlla i bambini e quindi non serve la ROM. Zapaetta può andare lì a fare le pulizie in grosso, il più, può portare la spesa, può accompagnare, può fare le cose che non fanno le altre. Pago tutto io, non è neanche questa scusa, pago tutto io, contratto a tempo indeterminato, pago tutto io. Parenzo, se sei un uomo la devi assumere. Parenzo, assumi la ROM. Dai Parenzo, che finalmente puoi fare qualcosa di concreto invece di dire solo cazzate. Fagli questo contrattino a tempo indeterminato a 1.500-2.000 euro, che sono per te Parenzo, che c'è un sacco di soldi, che vai alla 7, che vai nei ristoranti a 5 stelle. Dai Parenzo, fallo, smettila di fare il comunista del cazzo che parli solo e fai subito qualcosa per la ROM, visto che ti stanno così simpatici, o altrimenti fatti una settimanella in vacanza lì al campo ROM, testina di cazzo. Parenzo, assumi la ROM. Eccoci qua, caro David, siamo a 6.460. Siete, 6.460 le firme. Ragazzi, non vi fermate. Change.org. Firmate. Dobbiamo arrivare a 10.000 e poi capitolerà. Non capitolerà. Guarda, ti porto Sabaeta a Roma in studio una volta. Te la porto qui in studio. Certo. Te la porto qui in studio, Sabaeta. Sì. Te la porto in studio. Così si porta via il microfono. Fai la solita battuta. Che certo. Siete gente disprezzabile. siete brutte persone. Ma che brutte un persone? Un referendum nato dal nulla ha lo stesso valore di quello della Catalogna. Una petizione. Ci vorrebbe Rajoy per voi. Ci vorrebbe Rajoy con questi 6.000, non so neanche chi sono. Uno per uno. Rajoy ci vorrebbe. Rajoy. Uno per uno. Ragazzi, come il referendum della Catalogna. E non vale andiamo nulla. Andiamo avanti. 6.460. Sono ancora poche le firme. Firmate. È la stessa persona. Firmate. Non è vero. No, no. Ci sono i controlli. Ci sono i controlli. Ma di chi? Ma che controlli sai tu? Ci sono i controlli. Ma ci sono i controlli. 6.460. Andiamo avanti. A 10.000 capitolerà. Ma è il gioco sulla ruota di Napoli quei numeri. Pasquale da Napoli. Anzi, prima c'è Marco da Milano. Vai, Marco. Oh, finalmente Marco da Milano è ottimo. Vai, dimmi, bravo Marco dimmi. Da Milano. Pronti? Vice direttore dell'Espresso, bravissimo. Dimmi, dimmi, pronto, Marco, pronto. Dimmi. Ciao, ciao, ciao, ciao Parenzo. Allora, io brevemente voglio provare a far capire a Parenzo una cosa. Cosa? No, impossibile. Tu Argento. Dimmi. Ma tu, Parenzo, la violenza, perché la chiami violenza? Violenza, secondo te, è quella che ha subito Argento o violenza è quello che... Sì, fatti sentire meglio donna. Però Marco, fatti sentire meglio se non, che non capiamo che una discussione mazza, ci sono tanti tipi, dice... tante forme di violenza, che cosa vuol dire? Una, bisogna chiamare le cose per nome. Violenza è quella cosa che subisce una donna costretta e svilita in mezzo alla strada, costretta fisicamente, certo, da un pezzente di uomo e certo, violentata. Quella certo è violenza. Marco, perché parli certo col viva voce, poi con l'auricolare? Sì, l'ho detto però prima, c'è, un due c'è quella violenza. Amico mio, non è vero che non stai con c'è l'auricolare. C'è quella violenza dai, da strada che ho detto, e poi c'è la cosiddetta violenza dell'elite, cioè violenza che è una violenza sì di chi ha potere, che ti accoglie magari in un grande bell'albergo e ti riceve lì per farti un colloquio. Ti faccio un'altra domanda. È un'altra violenza, è sempre violenza sessuale, anche quella. Secondo te, la signora Asia Argento, a 21 anni, chi viveva in quel mondo era così ignara alle cose che quel mondo poteva prospettare e non aveva mai pensato. No, le ha accettate, le ha accettate. Perché fate questo processo? Ma perché non vi indignate di più per il carnefice e continuate ad attaccare la vittima? Perché? Per quale motivo? Ma non vi capisco. Sullo stesso livello di Asia Argento ci sono tutte le attrici americane. Non vi capisco, sono tutte, io non sarei Lina per fare Bologna, Lina da Bologna, vai Lina. Sì, buonasera. Dimmi. Allora, sono d'accordo con lei. Su, voleva appunto intervenire su Sargento. Sì, sì, abbiamo capito, vai. Ma veramente, cioè, prima di tutto non era, come diceva l'ascoltatore di prima, una ragazza sprovveduta. Ma e cosa poi cosa adesso vuole far vedere che fa la santarellina. Ma che santarellina? Ma che giudizio morale date? Ma chi ha mai detto che vuole fare la santarellina? Ma no, come si permette? Come parla, ma come cosa parla? Ma come si permette santarellina? Ma nessuno vuole fare la santarellina, fa quello che le pare, avrà una ma sua bella vita Parenzo, sessuale. Guardi, cosa Parenzo, dice signora lei, nonnina? Lei, guardi, che dice nonnina? Su, si sveglia. La sento parlare, mi va il sangue al cervello. Mi fa piacere, continua a parlare una allora. Stupida. Sì, io, ecco, piacere Parenzo, piacere Parenzo. Lei come si chiama? Piacere Parenzo, lei si chiama stupida? Prego? No, non piacere ho... Parenzo, lei continua a dire stupida, dico piacere no, Parenzo. No, io non voglio parlare con lei. No, cioè, ma è reciproco. Assolutamente è reciproco. Lei è nulla, cioè è una persona benissimo veramente che ci dovrebbe vergognare. Io vergognarmi a dire quello che dice. Io, lei ha detto appena ha detto una castronata, mi quello che si deve vergognare sono io. Cioè lei no, da donna lei, ha detto una castronata. Ma veramente, cioè non ne indovina una. Ma veramente, ma come fa Radio 24 a tenere lei? No, questa è una domanda lì buona. Ma veramente, è ignorante. Ma che c'entra, Lina? No, che però c'entra questa è una domanda giusta. Come che fa? La, che sì. Poi, sì. Giuseppe... Dimmi, allora, cara, dimmi Lina. Sì. Intanto, badate, ascoltatori, Cruciani viene chiamato sempre per nome da questi qua. No, non è vero. Sempre, è vero. Giuseppe, no. Giuseppe, tutti i più ignoranti. Giuseppe, ti devo dire una cosa, Giuseppe. Dimmi, dimmi Lina, dimmi. Prego, allora, dica, prego. Appunto su Asia Argento. Sì, abbiamo capito. Quindi che era è figlia di un regista. Sì. Quindi non può venire adesso a dire quello che dice, perché si dovrebbe solo vergognare. Ma poi, come si permette? Che senso dire, ma perché? Perché è figlia di un regista? Chiama fascista gli altri. Quello sì, non sa, quello sì. È una persona arrogante e poi guardi anche la sua vita. Cioè lei è arrabbiata perché ha dato della fascista, voleva, quindi chi è che parla? È Parenzo. È sempre Parenzo. Ma io però non voglio parlare con lei, per me lei è una nullità. La nonnina di Salò al telefono. La nonnina di Salò al telefono si è irritata perché Asia Argento ha usato la parola fascista. Ci ha telefonato la nonnina di Salò, la reduce nonnina di Salò. La reduce nonnina di Salò. Io mi indigno perché ha usato la parola fascista. La nonnina di Salò, la nonnina di Salò, la nonnina, eia, eia, ala, ma che ne sai che è fascista? È chiaro, sei irritato, eia, eia, ala, la nonnina, eia, eia, ala, la nonnina, che ruolo aveva lei a Salò? Io voglio parlare con Giuseppe, sì, no, perché che ruolo aveva lei a Salò, signora? Scusa, Lina. Che ruolo aveva lei a Salò? Che ruolo aveva, signora? Cosa faceva? Portava il caffè al Duce? Che ruolo aveva? Che ruolo aveva? Cosa faceva la minestrina al Duce? Che faceva? Che faceva lei a Salò? Che ruolo aveva? Vedi? Aspetta, Lina, Lina. Per avere il contrasto. Scusa, Lina. Mille per mille ha sempre ragione. Lina, tu sei fascista. Lina di Salò, devi chiamarla. Io fascista. Io sono liberale. Io sono comunista, così dovresti dire. Sono comunista, così come diceva Mario Brega. Lina di Salò. Lina. Vabbè, Lina, ho capito. Il problema è molto semplice. Tu perché l'idea della fascista quando non è fascista? No, perché è scattata. Non è fascista. La nonnina di Salò l'hai chiamata. L'hai chiamata la nonnina di Salò. Vergognati. È scattata sull'attenti appena ha sentito la parola fascismo la signora di Salò. Ma capito? Io a me non mi interessa, guarda, perché siccome non lo sono, non mi interessa. E poi anche se lo fossi, non mi vergognerei. Ah, la sua idea su Asia Argento l'hai espressa e tu l'hai attaccata. Certo, come? No, perché ha detto una porcata. Ha detto io una porcata. Non voglio parlare con lei. No, ma questo neanch'io, signora. Non c'è problema. Solo a sentirla parlare mi va il sangue al cervello, perché è talmente cretino. Gli hanno detto perché la tengono lì, per avere il contrasto, per far capire alla gente quanto i comunisti sono falsi, sono falsi, bugiardi, e lei è una persona falsa, e quindi io non mi voglio mettere al suo livello. Va bene, Lina, ciao, ti saluto, ciao. A difendere Daria Argento, ma si può? Asia Argento, Daria. Ma lei che esattamente che ruolo aveva a Salò, no? Per capire adesso. Che ruolo aveva lei? L'intellettuale. No, ma le chiedo che ruolo aveva lei a Salò, interessante, che ruolo aveva lei? Che ruolo aveva? A tutti questi a questa gentaglia. Ma come lo beveva? Come lo beveva il caffè il Duce? Come lo beveva il caffè il Duce? Come glielo portava il caffè al Duce lei? Dovrei vergognare ad avere un padre. Come sono stati gli ultimi giorni del Duce? Fermi tutti, fermi. Mi feci fa un confermo da era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Etherball. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. Un'altra sfida vinta, capo. Grazie a Peugeot Partner, primi nella consegna degli 8 quintali di rododendri per il matrimonio. E abbiamo portato anche lo sposo. Non si sa mai. Veicoli commerciali Peugeot, pronti per ogni impresa. Ora ancora più vincenti. Ottobre è il mese dei Professional Days. Approfittane subito. Per te fino a 10.000 euro di vantaggi esclusivi sulla gamma veicoli commerciali. Ti aspettiamo anche sabato e domenica. Peugeot. Offerta valida per contratti stipulati entro il 31 ottobre. Info su peugeotprofessional.it. Ciao, siamo Bruno Briganti e Vincenzo Bizzarri, gli artigiani della qualità. Il tuo divano l'ha fatto il test della resistenza? Ce ne sono diversi, eh? Le gare di tuffi dei bambini. Un derby col gol al 90esimo. Per superarli tutti ci vuole il divano giusto. Trova il tuo con il metà prezzo sulla collezione autunno di poltrone sofà. Termina domenica. E con la resistenza alle macchie, come la mettiamo? La mettiamo in lavatrice. Non tutto il divano, eh? Basta il rivestimento. Poltrone sofà. Artigiani della qualità. Per proteggere i tuoi risparmi, hai mai pensato alle autentiche monete dell'antica Roma? Bolaffi, il numero uno del collezionismo di prestigio, ti consiglia le monete dei grandi imperatori, da Giulio Cesare a Costantino, da Adriano a Nerone. Beni rifugio destinati a durare per sempre, non soggetti a tassazione. Dai serenità ai tuoi investimenti e scopri di più su monete.it o scrivi a info@monete.it. Garantisce Bolaffi. Monete.it. La strada non fa sconti. I centri Volkswagen Service, sì. Scegli l'affidabilità e la sicurezza dei ricambi originali Volkswagen. Fino al 31 dicembre avrai uno sconto del 30% sui ricambi dell'impianto frenante. Scopri questa e le altre offerte su volkswagen.it. Se sei un dottore, con EB Health di Team Digital Store puoi gestire con una sola app i tuoi pazienti, gli appuntamenti, le cartelle cliniche, la contabilità e avere tutti i dati online in sicurezza. E per i tuoi pazienti a quattro zampe, con Jacobet trovi la soluzione per gestire meglio il tuo studio veterinario. Team Digital Store, le soluzioni a portata di business. Vai su digitalstore.team.it. La zanzara. Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia. Attento, fascio, che non ci metto niente. A me fascio. Io fascio. A soccorrere, mica so comunista così, sa. So comunista così! Qui invece prevale il libertinismo, che è la variante erotica del liberismo, dove si massimizza l'utile individuale, che in questo caso diventa il plus godimento erotico per l'individuo atomizzato, che è scisso da ogni comunità e pensa unicamente a sé. Salve, io sono Luciano da Palermo, quello dei quattro colpi ogni mattina. E volevo dire, mi sono dimenticato di dire, che la persona più cara è quella a cui uno pensa quando si masturba. Ecco la persona più preziosa che uno ha nel suo ideale. Quindi la mattina, quando ognuno si dà quattro colpi, naturalmente sta pensando a una persona. Quella è la persona giusta, secondo me. Giuseppe, non siamo ancora al top. Ma credo che sia la simulazione di una di un pompino, una cosa di questo tipo, almeno in apparenza, però non avendo il video. Sembra una porcheria. Non avendo il video. Una porcheria gratuita. Non avendo il video. Ma perché eri tu lì il soggetto? Ma sei scemo, sei. Giuseppe, cioè, che ma Giuseppe? No, vabbè, ma no, Giuseppe, non siamo veramente a top. Cioè, è una che si rivolgeva a me, ma non era assolutamente l'oggetto. Non ero l'oggetto. Ma vai, è un WhatsApp che mi è arrivato, sei scemo, sei pazzino. Ma com'è che ti arrivano sempre queste cose? Perché questo è anche curioso. Arrivano tante cose. È curioso che ti arrivino sempre queste a te. Allora, secondo giorno. È arrivata però invece a me la relazione di Zagrebelsky. Non me ne frega niente. Sulla legge elettorale. No, non mi interessa. Voglio annunciare che anche personaggi del mondo pagine, vogliamo sì, cominciare no, a leggere personaggi del mondo dello spettacolo personaggi del mondo dello spettacolo hanno firmato la petizione no. Parenzo assumi la Rom Sabaeta. Personaggi importanti lo hanno fatto, credo, per spirito ribaldo, per spirito di contraddizione. Sono i personaggi del mondo per esempio il signor Dario Vergassola. Ma è un amico, come esatto, si permette? Esatto, Dario Vergassola, vi annuncio, ha annunciato ma mi pugnala. Ha detto che ha firmato la petizione Vergassola, Parenzo assumi la Roma. Vergassola, ma come si chiama? Bravo Dario, facciamo un applauso. Grande Dario, applauso. Che proprio firmate, andiamo verso i 10.000. Ragazzi, diario storia, diario di una madre di famiglia che si prostituisce per tirar su i figli e per divertimento. Vivo nel bordello più famoso del Nevada e ho scelto di intraprendere la carriera di cortigiana legalizzata. È bellissima questa cosa, che ne dica di Nolfi, cortigiana legalizzata. Secondo giorno, non ho dormito molto, colpa dell'adrenalina della sera prima e dello champagne. Scendo in sala da pranzo e sento che le ragazze celiache si stanno lamentando. Sul menù non c'è niente per loro, cioè le ragazze celiache prostitute. Prendo la parola per dire che il... e senza glutine mangiassero quello, il C sarà il cazzo immagino, non lo senza so, glutine no. Mangiassero quello. A parte gli scherzi, siamo un gruppo molto unito, ci sentiamo quasi in una sorellanza, non in una prigione per prostitute. E poi tornare a casa col portafoglio pieno è una sensazione non male. Questo mestiere può essere molto lucrativo se riesci a gestire e investire bene i soldi. Stasera l'atmosfera è più tranquilla, non abbiamo molti clienti, ne approfittiamo per raccontarci qualche aneddoto hot. Sentite questa, una ragazza ci rivela che una volta è stata a cena con un uomo che l'aveva pagata $8,000 per mangiare con lui e mangiare le sue feci. Mamma mia, ma che racconti, insomma, che roba è? Non lo so, sto leggendo adesso. Chi era il pervertito? Il preside di una grossa università americana. Beh, ragazzi, secondo giorno del diario di una madre di famiglia che si prostituisce per tirar su i figli. Un grande racconto di vita. Ma non è un racconto, un grande racconto è una di verità, tristezza assoluta. Di vita e di verità. Marco da Milano, ancora un altro Marco da Milano. Sai che ci sono molti che sono chi ha Marco da Milano. È un cognome che, ripeto, non è Marco da Milano, il ma bravissimo è Marco da Milano che è sulla 7. Ma è Marco è vice dalla città dell'Espresso, di Milano. Bravo Marco. Vai Marco, dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Vabbè, volevo dai. Parlare di sesso anale alla cosa maniera, vuoi dire? Cosa alla vuoi maniera dire? Della maggioranza silenziosa, però. Non cioè? La maggioranza silenziosa non propone temi di questo tipo. In punta di piedi, Parenzo. No, la maggioranza silenziosa non propone temi di questo tipo. Nessuno. Il mio aneddoto è il seguente. Ma non vogliamo saperlo. Tu sei studente universitario? Sì. Quanti anni hai? 23. 23, allora? 23. Ho fatto amicizia con un ragazzo italo-americano un mese fa e dopo le prime uscite siamo entrati in sintonia e ci siamo scambiati le confidenze sulle nostre esperienze normale, sessuali. Dai, normale. Le cose più eccezionali che abbiamo fatto. Da parte mia non c'era nulla di clamoroso, sono fedele alla cariola, alla pecorina, sai com'è. Capito, è una notizia colossale questa. Cerca di essere più originale. Passiamo al compare italo-americano. Gli chiedo cos'è la cosa più incredibile che hai fatto nel sesso. È stato fare un Dirty Sanchez a una ragazza. Come? Un Dirty Sanchez. Che è un Dirty Sanchez, amico mio? Parenzo, vai a vedere che cos'è questo Dirty Sanchez. Andiamo. No, però vai a tradurre in maniera normale, dai. Permettimi. Traduzione letterale, Dirty è sporco in inglese, Sanchez è per sineddoche, usando una figura retorica parenziana, il baffo del mariachi messicano. Praticamente questa pratica consiste nel al termine del sesso anale passare con il proprio pene. Fare il baffo, sì, però amico mio, ho capito Marco. Allora, schifo, amico mio, non è incredibile. Non volevo ascoltare, una porcheria assoluta. Non ce ne frega un cazzo, lei Marco. È una persona che fa schifo, giustamente, lo puoi attaccare. È una persona schifosa, lei. Può essere dalla consenso della zanzara. Ma non esiste neanche, ma deve vergognarsi quando torna a casa. I genitori che lo fanno anche studiare, ma è una porcheria, è un ineleganti, ineducato, schifoso, vomitevole. Ma quale amico americano? Siete due persone vomitevoli, lei e il suo amico americano, non mi interessa. Non voglio Andrew, porco di Andrew, pig, maiale. Ma Andrew fa non voglio in inglese. Non mi interessa. Passami Andrew un attimo. Passami Andrew un secondo. Sono curioso adesso di Andrew. Aspetta. Pronto. Do you speak Italian? Sì, parlo italiano. Ah, va bene, parlo italiano così. Rimandiamo questo però, perché vi siete premurati di chiamare la Radio 24, ecco, la trasmissione Zanzara, per raccontare questa cosa un po', insomma, non particolarmente interessante. Schifosa, bravo. Perché? Un po'... It happened. Ma parla in inglese, diglielo in inglese. Parla in inglese. È stata una tua idea, parla in inglese. Parla in inglese tranquillamente. It was Marco's idea. Ah, non è stata la tua idea. Wonderful. Tu non volevi raccontare, diciamo, i tuoi, come dire, le tue fissazioni erotiche. No. However, if you would like, I also have another story. No. You are disgusting. You are really, really disgusting, man. Disgusting. Così. Horrible. You are disgusting. Pronto, senti l'altro, il cretino. Vabbè, Marco, ci ha rotto il cazzo. Ciao. Come cretino? Amona. Dai, Andrea da Milano, vai. Sì, ciao. Dimmi. A tutti. Io volevo intervenire sulla legalizzazione della prostituzione. Io sono a favore della legalizzazione della prostituzione. Bravo. Ma per due motivi, cioè sostanziali. Anche delle canne? Anche delle canne, amico. E anche sulla legalizzazione della marijuana. Perché certo, secondo me tu te fai dei gatti, ammazzi le canne, sicuro? No, non è che mi ammazzo le canne, però torniamo sulla prostituzione, Cruciani. Sì. Cioè, rendiamoci conto che è un incontro tra due problematici della società. Cioè, uno che cerca un bisogno fisiologico dell'essere umano, la eiaculazione. Poi? E l'altro il bisogno della ricerca di denaro per portare avanti dei figli, come facevi tu esempi poco fa. Cioè, ma certo, ma è normale, ma Andrea hai perfettamente ragione. Lo Stato non deve aiutare un onesto cittadino che può pagare anche le tasse? Cioè, a me mi si vengono sono cose tasse, che diciamo, sono cose che diciamo da anni. La legalizzazione della prostituzione, cioè, è incredibile. Va bene, Andrea, non grazie. Mi rendo conto perché Parenzo si nasconde dietro un dito. Ma Parenzo è d'accordo sulla legalizzazione. Sì, ma sulla legalizzazione della marijuana no. No, come no? È d'accordo pure su quello, ti segnalo che è d'accordo pure su quello. Ciao Andrea, ciao. Allora, è di oggi la notizia. Mi segnala tra l'altro un autorevole, simpatico e giovane esponente della Confindustria che questa roba di Sanchez è una stupidaggine uscita da South Park 10 anni fa. Quindi attenti ascoltatori nostri, segnalano che è una stupidaggine. Infatti io ho capito subito roba che era South Park. Ho capito subito che era una puttanata. Dirò solo il nome, Carlo. Grazie, cioè un'invenzione, Carlo. Dici, non è vera questa cosa qua. Cioè non è che la pratica quel così tizio mi là. Scrive un attento allora, uomo di impresa. Apprendo oggi che a Milano tempo fa c'è stato un caso di cronaca importante, cioè un incidente mortale in cui un tizio, un pirata della strada, ha ammazzato un'altra persona mentre a Viale Monza attraversava la strada. Io abitate. È stato condannato a 7 anni e 6 mesi e il GUP del Tribunale Lombardo di Milano ha deciso che l'uomo lascerà il carcere quando sarà disponibile il braccialetto elettronico. Cioè il 33enne responsabile di un incidente mortale, condannato a 7 anni e 6 mesi per omicidio stradale, andrà ai domiciliari col braccialetto elettronico, ragazzi. Andrà ai domiciliari col braccialetto elettronico. Omicidio stradale, questa. Ai domiciliari col braccialetto elettronico. Un pirata della strada che ha massacrato e distrutto una famiglia, soppresso una vita umana, va ai domiciliari col braccialetto elettronico. Io non so come commentare questa cosa. È incommentabile, secondo me. Incommentabile. Davide da Torino, vai, Davide. Sì, ciao. Dimmi. Ma boh, omicidio stradale, comunque potrebbe capitare anche a te, bevi un bicchiere, investi qualcuno, uccidi, perché devi infatti essere criminalizzato. Come hanno aumentato le pene, infatti il governo ha aumentato le pene per l'omicidio stradale. Vabbè, dai ragazzi, adesso sì, al di là di questo, no, Davide, che cosa vuoi dire? Il caso Weinstein, no? Cioè lì sentivo prima lì il vetero buonista Parenzo, violenza, sembra che abbia fatto chissà cosa. Poi l'altro Adinolfi, che è la stessa voce di Telese, fondamentalista, che diceva no è prostituzione. Secondo me invece è semplicemente una chiavata venuta male. Quante volte ci è capitato a tutti di andare con donne che non ci piacciono? A uomini, a noi tutti sarà capitato, ti senti la sensazione di sporco addosso, probabilmente sei una festa, bevi qualcosa in più, questa ti salta addosso, che non ti piace, però vai, ti stessa cosa alle donne. Fate questo semplicemente perché lei è una persona in vista e quindi vi accanite in questo modo. Non ho capito, per te che cosa è una... perché in vista, Parenzo, ma fosse cosa la storia questo? Di una parrucchiera, cosa giustamente c'è? Avreste ma un altro atteggiamento. Ma non c'entra nulla, può capitare a tutti di farsi una chiavata, se è una chiavata non l'ha frustata, ma non è non questo gli ha fatto il caso. È una chiavata, ha denunciato, male. Non è questo il caso, ma che ne sa lei? Ma si vergogni di quello che ma dice. Che ne sa lei? Lei che ne sa? Ma che ne io sa mi devo filare, intanto l'hanno confermato tante altre donne. Quindi allora, non è un complotto, la... lo hanno confermato tante altre donne. Sei un giustizialista, perché se arrivasse siete incredibile. Una donna che dice, una donna oggi di 40 anni che dice che Parenzo l'ha violentata quando aveva 20 anni. Vabbè, io cercherò di portare le prove, che voglio dire non c'ero, che cercherò di difendermi, spero. Che prove vuoi portare? Niente, c'è la tua parola contro la sua. No, mi pare che in questo caso le cose siano andate un po' di mi pare che in questo caso le cose siano andate diversamente, perché ci sono più persone che confermano, decine e decine. Insomma, di persone. Insomma, secondo te alla confermano. Fine che cosa ha fatto Asia? Non ho capito. Che cosa ha fatto ma Asia Argento? Ma una chiavata venuta male adesso. Non è stata proprio una chiavata venuta male comunque, da quello. No. Perché no? Che vuol dire? Hai fatto una puttana stupida. Non è mai capitato di andare con una che non ti piace. Ha fatto una buttata talmente stupida che si rende conto però l'ho deciso, però l'ho deciso in questo caso. No, ma lei che abbia raggiunto io metto in discussione il dopo, in cui lei ha raggiunto un compromesso dopo. Ha raggiunto evidentemente un compromesso nessun dopo. Compromesso. Sì, ma è evidente che ha raggiunto un compromesso, no? L'ha detto anche lei, l'ho fatto per non rovinare la mia carriera, punto e basta. Dunque non ha denunciato. Per me il fatto che uno non vada a denunciare dai carabinieri, dalla polizia, in quell'ambiente ipocrita di Hollywood, tutti si coprivano, mi fa schifo. Paolo da Brescia, vai Paolo. Come mi fa schifo uno che ci prova, ma che il fatto che ci provi un produttore discorso. O ci provi un è uomo normale. No, ma non mi pare una cosa così, cioè, adesso ci stupiamo tutti, ma non è questione, ma dai, ragazzi, di farlo diventare Paolo, un atteggiamento Bravo. Riprovevole vai di... veloce che abbiamo chiuso, vai Paolo, dimmi. Ciao, allora due cose, innanzitutto volevo capire quel professore universitario americano che ha pagato 8.000 euro, ma le ha mangiate lui le feci o le ha fatte mangiare alla prostituta? No, credo che le ha mangiate lui la prostituta, le ha mangiate lui, beh, guarda, io lo facevo pagare molto di meno, anche 500 euro. Vabbè, che cioè, nel niente... senso che tu ti prostituiresti tranquillamente? No, se le mangiasse per 500 euro anche volentieri. No, ma ho capito, ma tu ti prostituiresti, sei uno che potresti offrire il tuo corpo in cambio di soldi? Allora, volevo dire la mia, non riguardo ad Asia Argento, ma quello che penso io. Cioè, vai, veloce, dimmi. Che ho fatto talmente fatica nella vita professionalmente, mi sono guadagnato tutto, che se ci fosse stata la possibilità di darlo via, perché no? Cioè, tu avresti fatto il gigolò tranquillamente, se ci fosse stata la possibilità. Evidentemente non ci hai mai pensato. Cioè, nella tua... Non ci hai mai pensato, evidentemente. No, la questione non è quella. Riuscire a far carriera con il proprio corpo per quanto riguarda il lavoro. Non è il suo caso. Ma guarda che può essere una soluzione a tanti problemi. Cioè, lo avresti fatto, lo faresti. Non è il caso di Asi. Ha voglia, lo faresti. A questo punto non lo vuole più nessuno. Ma guarda che, a questo punto, quanti anni hai, scusa? 55. Vabbè, è chiaro che non lo vuole più nessuno, a meno che non sei, non so, non sei super dotato, non sei particolarmente attrezzato, anche mentalmente. Il problema è che uno, se ci pensa, dice che bello scopare per guadagnare. La realtà è che poi nel concreto è complicato, ragazzi. È un lavoro. Cioè, è complicato, è un lavoro più difficile di altri, forse per la donna, anche per la donna, sì, sicuramente. Ma quando hai 20 anni è forse anche più complicato. Ma amico mio, non ti preoccupare, è complicato. Triste, ragazzi, okay. A domani, no, ciao, ciao. Ciao, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. No.